e cioè Flaviana Pagliuca, sono la giornalista del TG1 e sono l'autrice di questo libro La pazzia dimenticata. No, intanto ringrazio il senatore Ignazio Marino, Maria Rosaria Bianchi, psichiatra e psicoterapeuta, Irene Calesini, psichiatra e psicoterapeuta, Francesco Dall'Olio, magistrato, Modera Roberto Di Giovan Paolo che sta arrivando, e adesso accanto a me c'è cioè Fioretta Mari, attrice di cui credo non devo fare altre presentazioni, che ci leggerà un brano del mio libro e poi intanto aspettiamo aspettiamo il senatore Marino intanto se può avvicinarsi, sta facendo un'intervista, allora aspettiamo altri 5 minuti o cominciamo? Allora, ti tengo il microfono. Ok, applauso. Innanzitutto, buongiorno, vedere tanta gente in un posto di cultura non fa che rallegrarmi, anche perché chi mi ha seguito sa che io faccio di tutto perché l'Italia sia conosciuta per la grande cultura che ci distingue. Io ogni tanto faccio degli stage in America e amano gli italiani che vogliono andare avanti il bene di questa terra. Allora, cerchiamo di sentirci migliori perché grandi persone ne abbiamo. Una di queste si chiama Adriana Panitè. Quello che vado a leggere è Il mostro di Posillipo. Non mi era mai capitato di concludere un incontro con un internato nell'ospedale psichiatrico veneziano con un elegante bacio a mano. Un cordiale arrivederci e una curiosa attestazione di stima sul mio lavoro, per il quale mi viene detto: lei dovrebbe guadagnare molto di più perché io la vedo sempre in televisione, vedo anche le sue colleghe, mi rendo conto del lavoro che fate. E soprattutto come non restare interdetti se la persona che hai davanti con la quale hai conversato si chiama Andrea Maria. Ha origini alto borghese della Napoli bene, una famiglia pronta a tutto pur di proteggerlo o quantomeno non abbandonarlo, studi prestigiosi alle spalle, un soprannome che purtroppo sembra fatto apposta per un film italo-americano dell'orrore, Il mostro di Posillipo. Con questa carta d'identità mi viene presentato dagli agenti penitenziari che in questa occasione si guardano bene da lasciare l'uscio alle mie spalle. Una donna di 17 anni, ma sembra confondere le date. Quando gli chiedo perché lo ha fatto, si limita a rispondere che è nato cattivo e che è sempre stato cattivo fin da piccolo. Dunque non c'è alcuna ragione particolare che mi spinge a uccidere, se non il fatto che mi fa stare bene. Poi un fiume di dettagli, mi piace consumare un rapporto sessuale e poi legare, torturare le mie vittime, straziarle, squartarle e morderle. Mi piace il sangue. Sono costretta a fermarlo perché è lo stesso racconto non sollecitato dei suoi delitti e delle sue fantasie di omicidio a provocargli un'euforia spaventosa. Somiglia a un godimento fisico al quale è possibile opporsi soltanto mostrando calma, se non indifferenza. Eppure le gesta del mostro di Posillipo sono ben conosciute e classificate dal punto di vista medico in una patologia che non lascia dubbi. Disturbo schizofrenico di tipo paranoide. Primogenito di tre figli, cresciuto nell'agiatezza economica, perde il fratello minore nel 1982 per un tumore, ma non è chiaro se sia stato quell'evento a far esplodere la sua pazzia. Nel 1989 in via Marichiara a Napoli viene trovata una valigia con un corpo di donna all'interno. Le indagini conducono a un tossicodipendente e da lì si risale ad Andrea Maria, l'uomo che l'ha frequentata, che viene però rintracciato soltanto dopo qualche tempo in un ospedale psichiatrico di Nizza. Andrea Maria accusa dapprima un'altra persona, ma le sue responsabilità sono subito evidenti, soprattutto la sua malattia mentale. Cita i testi mistici della Grecia che insegnano che un uomo, anche se non ha commesso colpe, deve soffrire per purificare le pene degli altri. E confessa comunque di aver ucciso in passato un'altra donna e di averne gettato il corpo in mare. Poi chiama in causa come complice anche il fratello Antonio, che invece era già morto e che nella sua immaginaria ricostruzione dell'accaduto Lo avrebbe aiutato a trasportare il corpo della vittima in una bara a bordo di un ciclomotore. Viene prosciolto con l'assegnazione a un ospedale psichiatrico giudiziario per 10 anni, che gli sono stati inevitabilmente prorogati di un anno in anno. Da qualche tempo non usufruisce più delle licenze che gli erano state talvolta accordate, nonostante l'elevata pericolosità sociale. Nel 2003, affidato al padre per una gita a Napoli, si era allontanato da un bar e aveva fatto perdere le proprie tracce. Lo hanno trovato dopo qualche giorno a Milano. Se avessi la forza di continuare ad ascoltare tutti i suoi deliri, sono certa che non mi verrebbe risparmiato alcun dettaglio della sua voracità omicida. Con la stessa affrontatezza, guardandomi fisso negli occhi per valutare la mia reazione, mi annuncia che ogni giorno è costretto in altro modo a soddisfare, ripetute volte almeno, la sua irrefrenabile bramosia sessuale. Quando decido di interrompere il suo monologo truculento e gli chiedo che cosa ne pensa della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, mi risponde semplicemente: mi sembra una buona idea, comunque se io uscissi lo rifarei. Certo che lo rifarei, perché mi piace uccidere. Lo ringrazio e lo congedo. Sembra sospeso, quasi stordito, tutto qui? Sì, è tutto. L'agente penitenziario che lo riconduce in cella al termine del nostro colloquio mi riferirà una curiosa conversazione con Andrea Maria. La giornalista non si è spaventata, no, non si è spaventata. Chissà cosa deve averlo fatto pensare e se questo pensiero gli abbia provocato una profonda delusione. È una storia limite, no? È una storia forte, mi spiace, ci sono anche dei bambini, quindi tanto non l'avevamo mai individuato. È una favola di Pinocchio. È la favola di Pinocchio, purtroppo. Pinocchio che diceva. Infatti, purtroppo non è la favola di Pinocchio e vabbè, intanto voglio fare alcuni ringraziamenti alla casa editrice, innanzitutto, che mi ha consentito di fare un lavoro così complicato e generalmente poco accolto dalle case editrici, no? Questo argomento, senatore Marino, è un argomento che fa venire i brividi e quindi di solito, insomma, le case editrici non piace nemmeno moltissimo alla stampa. Vorrei, però ci sarei 3 ore, insomma, vorrei ringraziare tutti quelli che sono venuti qui in questo caldo e insomma in questo pomeriggio di sabato. E dimentico sicuramente qualcuno, però voglio farlo subito, un ringraziamento speciale. Vabbè, lo faccio dopo, insomma, vabbè. Alla mia amica di Castiglione delle Stiviere, alla direttrice dell'atelier di pittura di Castiglione delle Stiviere, Silvana Crescini, perché è venuta appositamente da Castiglione delle Stiviere. Questo è un momento particolare per lei, perché dopo 20 anni di atelier di pittura, questo lo diciamo al senatore Marino, pure lei ha diretto questo atelier con fatica, con amore, con orgoglio, questo atelier sostanzialmente sta chiudendo. E quindi questo è un po' un appello che io vorrei anche lanciare al senatore Marino. Detto questo, partiamo dai relatori e quindi, visto che mi sto moderando da sola, poi però arriverà insomma il vero moderatore, quello ufficiale, io partirei dal magistrato, da Francesco Dall'Olio, perché, perché il problema degli ospedali psichiatrici giudiziari richiama fondamentalmente ha un grande problema, e cioè quello del ruolo dei magistrati di sorveglianza. Sappiamo che molti pazienti, molti ricoverati, non dovrebbero nemmeno più trovarsi in quelle strutture, e questo è stato evidenziato dal lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale presieduta dal senatore Marino, che ha portato appunto all'approvazione di questa legge che stabilisce la chiusura degli OPG entro il 31 marzo del 2013. Sappiamo che molte dimissioni fino ad ora negli anni non sono state possibili perché, questo non è ovviamente un atto d'accusa, ma perché i magistrati di sorveglianza hanno ritenuto appunto che non ci fossero le condizioni o che non ci fossero strutture sufficienti sul territorio per accogliere appunto questi malati, perché sono fondamentalmente dei malati. Allora, un ruolo delicatissimo, un ruolo di snodo, no? Tra la struttura sanitaria, penitenziaria, perché sono strutture particolari, poi ne parleremo, però vorrei partire appunto da Francesco Dall'Olio per capire cosa succede, come lo si comporta un magistrato. Avete invitato il magistrato sbagliato, dovevate invitare lui della sorveglianza, io invece purtroppo scherzo, come sapete io faccio il pubblico ministero, quindi come dire, sono di quelli che in teoria contribuisce a riempire carceri e ospedali psichiatrici giudiziari che ci sono. Ma sì, a parte che volevo spendere due parole per il tuo libro, che insomma mi è sembrato veramente, ecco, forse l'aggettivo migliore, mi sentite? Sì. Così è meglio, eh? No. Dicevo, dico, l'aggettivo che tu hai usato è quello che avevo pensato anch'io da subito, insomma, un libro coraggioso il libro, coraggiosa l'attività di pubblicare il libro, perché, come dire, è un argomento che non si affronta volentieri, e lo vediamo, l'ha visto la commissione d'inchiesta quanto un argomento non si voglia affrontare, e è un argomento difficile, doloroso, e quindi insomma credo che l'aggettivo coraggioso sia giusto. In più mi è sembrato anche un libro fatto bene, non è solo il coraggio, anche il modo con cui poi si presenta questa situazione che, come dire, ho paura che non ha trovato la sua soluzione definitiva. Certamente, e questo diciamo va a merito della commissione d'inchiesta da lei presieduta, professore, mi scusi se io la chiamerò professore, però nel mio immaginario lei è un medico, no? Anche nella realtà. Sì. Questo grandissimo merito, no? Soltanto che mentre voi parlavate mi veniva fatto di pensare proprio a proposito di questo discorso del rapporto tra magistratura e psichiatria, no? Che nel caso diciamo che è trattato dal libro è estremamente, dovrebbe essere estremamente collaborativo, ma soprattutto, ecco, quello che vorrei sottolineare, dovrebbe essere estremamente sinergico, cioè mi spiego, allo stesso modo in cui noi vediamo un rapporto di finalismo tra la contenzione dei soggetti autori di reati e diciamo il loro recupero, la loro cura, quindi ha un senso che vengano costretti certamente per impedire, per garantire le esigenze di tutela della collettività, ma ha un senso perché c'è un fine, oltre che contenerli in assoluto dobbiamo anche curarli se possibile. Sappiamo poi, forse la dottoressa Bianchi ce lo dirà più esplicitamente, che in realtà ci sono delle situazioni che ormai sono talmente gravi, prese talmente tardi, che insomma, il discorso della cura è limitato, ovviamente, no? Io non credo che qualcuno pensi di potersi mettere a curare a breve, ci prova, insomma, sarà un po' difficile. Però dicevo, c'è un finalismo, cioè una strumentalità nel rapporto tra contenzione e terapia. Quindi ecco perché dico, nel caso della magistratura di sorveglianza questo rapporto è ancora più stretto, perché proprio diciamo attraverso quella che è la procedura di riesame della pericolosità sociale al termine del periodo minimo di corso per cui il magistrato di sorveglianza che fa? Va a verificare se la pericolosità sociale è tuttora sussistente. È arrivato il nostro moderatore? Oh, fino adesso siete stati estremissimi, moderati, vi dicevo. No, Rai, comunque. Quindi stavamo dicendo, dunque, questo discorso dovrebbe essere ancora più importante, più stretta questa sinergia, no? Però, ecco, io... è vero che non faccio il magistrato di sorveglianza, però ho fatto diverse udienze al Tribunale di Sorveglianza come pubblico ministero e ho visto che spesso la difficoltà dei colleghi nel riesame della pericolosità sociale è che si trovano davanti delle relazioni che quasi mai sono redatte dagli psichiatri, sono il più delle volte relazioni redatte dagli assistenti sociali, absit iniuria verbis, ma redatte dagli assistenti sociali, se va bene da psicologi e comunque da volontari che presso queste strutture, come dire, forniscono una serie di attività. Ora, io non voglio sminuire queste figure professionali, per carità, però a ciascuno il suo. Se cioè dobbiamo parlare di terapia, se soprattutto dobbiamo metterci a valutare la pericolosità sociale di un soggetto malato, autore di reato, che è una cosa bella complicatella, adesso poi le psichiatre ce lo faranno capire ancora meglio. Ma voglio dire, non dico che ogni volta ci vorrebbe una perizia psichiatrica, ma ogni volta ci vorrebbe una perizia psichiatrica attenta, approfondita, un paziente che dovrebbe essere seguito, monitorato, ovviamente colui il quale redige la relazione dovrebbe essere il terapeuta. È chiaro che se però noi ci limitiamo a verificare il più o meno buon comportamento all'interno della struttura, se questa persona si lava i denti con lo spazzolino e non con la spazzola alle scarpe e quant'altro, beh, insomma, è chiaro che poi alla fine avremo una valutazione che, come spesso succede nel mondo vuoi clinico, vuoi giudiziario, per evitare che si creino dei problemi ex post, si ancora al dato formale. Questa, guardate, è una di quelle cose micidiali del nostro sistema giudiziario e ospedaliero, che sostanzialmente poi fa capo, questo lo voglio dire in maniera molto veloce perché sarebbe un argomento un po' troppo complicato, fa capo spesso alla paura di essere liberi, nel senso di adottare delle decisioni che si ritengono corrette in quel momento, adottarle e prendersene la responsabilità. Siccome siamo, come dire, calati in una cultura che fa del, come dire, di quella ipotesi che si potrebbe verificare un domani se io non facessi tutto quello che dovrei fare, talché mi si potrebbe addebitare, ci si comincia a muovere sempre ancorandosi al dato formale. Quindi questa persona che ha fatto il mostro di Posillipo, dopo questa chiacchierata, chi è che si assume la responsabilità di dire, beh, potrebbe anche uscire tutto sommato? Per carità, quello è pericoloso a vita. Adesso questo è evidente, è un caso abbastanza semplice. Esatto, una medicina difensiva nel campo medico. Quindi, voglio dire, la difficoltà, secondo me, il nodo fondamentale è quello di evidenziare la strumentalità, io direi la mera strumentalità dell'aspetto detentivo nei confronti dell'aspetto terapeutico, perché altrimenti se non c'è questo finalismo, questa strumentalità, allora diciamo che l'opera di riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari si può fermare tranquillamente alla loro chiusura. Si chiudono, basta, queste persone si metteranno nelle patrie galere se non rientrano nella categoria, professore, dei dimissibili. Se rientrano nei dimissibili torneranno a casa. Questo è il discorso. Spero che poi, semmai dopo, lo approfondiamo. Roberto, è la prima volta che mi devo moderare da solo. Roberto, dipende da quanto sei estremista, diciamo. Non sappiamo. Vabbè, grazie, scusate, in realtà ho fatto tardi per colpa della RAI, non so se tu la conosci, quell'azienda lì, eccetera. Beh, comunque vediamo di almeno di recuperare il fervorino. In realtà io prima di diciamo dar la parola avevo immaginato di introdurre alcune cose che invece taglio devo anche introdurre. Allora sono un introduttore oltre che un moderatore, insomma. Allora, il libro è, l'ho visto, non è solo una cosa interessante perché è fatto da una persona che stimo come giornalista, come amica e l'ho vista come collega, diciamo, al lavoro, ma perché purtroppo, così come Ignazio Marino, diciamo, ho incrociato questi temi e li incrocio, diciamo, su un versante specifico. Li abbiamo incrociato in questi ultimi 5 anni come colleghi con Ignazio Marino, quello degli ospedali psichiatrici giudiziari. In realtà per me è affiancato anche a tutta un'altra serie di cose, perché presiedo il forum per la salute in carcere, quindi non solamente la questione della salute mentale, ma tutto il resto che comporta, e quindi il degrado, diciamo, in cui versa l'istituzione, diciamo, l'abbiamo vista in questi anni. Qualcuno di noi ha tentato, appunto, sommariamente di metterci anche le mani. Gli OPG rappresentano un elemento fondamentale su questo tema della salute in carcere in genere, perché in realtà sono il tema, e Fervolino finisce da poco, ma insomma ci tenevo, diciamo, a dirlo anche per fare le domande giuste, perché in realtà sono un elemento centrale di questo tema, perché sono anche uno dei pochi posti dove c'è una relazione tra dentro e fuori il carcere. Perché mentre la cura delle altre malattie è relativa al valore del centro clinico che è dentro o che è stato, o al settore, diciamo, dell'ospedale, vedi il Pertini o altri che ce ne stanno in giro per Italia, a Genova, sulla questione della salute mentale, come dire, il modo in cui vengono o meno curate queste persone e il modo in cui vengono dal momento dell'osservazione in poi, ammesso che già dal primo giorno in cui si entra in carcere non inizi un problema di salute mentale, diciamo, che vale per tutti, il modo in cui, diciamo, vengono curati è una funzione specifica e direttamente collegata a come non vengono curati quelli che non commettono reati. Perché parlando degli OPG, adesso quando andremo alla pratica, che purtroppo non sarà i primi di aprile come speravamo nella legge, ma questo è quello che chiederò a Ignazio, di cominciare da lì, perché se mai si cominciava, mai si faceva, nemmeno quando verranno gli altri mesi. Il nodo vero è che parlare degli OPG, cioè scoprire che ci sono delle persone che vanno dimesse, e qui viene raccontato nel libro come, perché, chi, quando, per in che condizioni stanno, significa domandare, sì, ma dopo finiranno alla stazione Termini, dove verranno, dove gli daranno fuoco, come, da fuoco, come è successo per altre persone con queste difficoltà, finiranno, li avremo liberati, ma staranno dentro gli ostelli della Caritas perché in famiglia non li prendono più, cioè non finisce lì. La domanda da farsi è, ma quelli che non hanno ancora commesso reato e le loro famiglie come campano adesso? Come funzionano i centri di salute mentale, i dipartimenti di salute mentale? E questo è importante, perché è una delle poche volte in cui, parlando del carcere, si riesce a parlare del resto della società. Allora, ecco, io penso che il valore, diciamo, di questo libro, che per la verità, non so, Adriana affronta sempre questi temi veramente molto difficili, gli va dato onore perché lo fa facendolo leggere, quindi leggetelo innanzitutto, non sentite solo le nostre cose, insomma, ma leggetelo, perché vale la pena. E io penso che, insomma, valga la pena, perché in realtà parla di tutti noi, parla di cose che stanno fuori, non solamente lì dentro, dove esercitare un pochino di carità e di sentimento umano, insomma. La solidarietà va bene, ma se poi non ci accorgiamo di quelli che già stanno vicino a noi in quelle condizioni, diciamo, è questo che mi sembra Diana, anche questa volta, l'altra volta quando parlava delle madri assassine, parlava di tutte le madri, parlava di tutti i padri e i mariti e i maschi, visto che è questione di questi giorni, che non c'erano e che erano in quelle condizioni, e questa volta parla di tutti gli altri che non ci sono nell'OPG o nel carcere, ma che è i dintorni, e quindi siamo noi. Quindi questa è la parte, diciamo, che ci tenevo a dire, anche invece di ringraziare Adriana che mi ha chiesto di far parte di questo panel, diciamo, che non pensavo nemmeno così numeroso. E quindi io darei subito, invece, in questo caso la parola a Ignazio, Ignazio Marino, insomma, lo conoscete, diciamo, lui ha guidato questa, io mi ha fatto molto piacere, ci eravamo conosciuti prima della legislatura proprio su questi temi, e poi invece abbiamo, e poi insomma ci siamo ritrovati sempre però noi quattro gatti, insomma, diciamo, occuparci di queste tematiche pure dentro il Parlamento. Però ecco, diciamo, Ignazio ha una lunga continuità e anche molta pazienza nel seguire questo tema, e ha deciso di metterci le mani sopra, sapendo della fallibilità anche della politica, quindi che il 31 di marzo può non voler dire il 31 di marzo, ma che se tu non metti per iscritto non ci sarà mai un 31 marzo, diciamo, di fine. Quindi gli chiedo intanto, ecco, di di dirlo anche in questo momento in cui siamo dentro la vicenda. Il 7 febbraio è stato deciso la ripartizione dei denari di quella legge sugli OPG, abbiamo una situazione un po' più simile a metà. Che cosa, diciamo, è possibile aspettarci? Innanzitutto grazie principalmente ad Adriana per aver raccolto in un libro una vicenda che io considero una ferita del nostro paese, della nostra società. E vorrei, certamente non sfuggo alla domanda che mi è stata fatta, ma vorrei raccontare il mio punto di vista, il punto di vista che ho costruito in questa inchiesta del Parlamento, del Senato della Repubblica, sugli ospedali psichiatrici giudiziari, che però di fatto potrebbero semplicemente essere chiamati manicomi criminali, perché quando è stato deciso nel nostro paese di cambiare queste strutture, di fatto l'unica cosa che è stata cambiata è l'etichetta al di fuori, l'insegna che da manicomio criminale è stata cambiata in ospedale psichiatrico giudiziario. L'ospedale, nell'immaginario di tutti noi, a partire dal sottoscritto, è un luogo dove le persone entrano per curarsi perché hanno un problema di salute. Bene, io lo dico con molta semplicità e anche con un po' di vergogna, dal momento che presiedevo e ancora presiedo per qualche giorno una commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale. Non immaginavo neanche lontanamente che cosa potesse esserci all'interno di questi luoghi. E quando all'interno di un'inchiesta molto più ampia, qui ho visto che ci sono specialisti della materia, insomma psichiatri, psicologi, persone che davvero tutti i giorni si occupano con diligenza, passione e attenzione ai problemi di salute mentale, quando all'interno di un'inchiesta più ampia decidemmo di occuparci di questa area di cui pochi si erano occupati all'interno del Parlamento, cioè gli ospedali psichiatrici giudiziari, davvero non immaginavo io e non immaginavano gli altri senatrici e senatori della commissione d'inchiesta quello che avremmo trovato. Il primo luogo in cui siamo entrati con i poteri che la Costituzione, un articolo che le nostre madri, i nostri padri costituenti hanno voluto scrivere, un articolo molto breve, l'articolo 82 della Costituzione, che dà al presidente di una commissione d'inchiesta gli stessi poteri di un PM, di un magistrato nella fase inquirente, quindi dei poteri molto più alti nel condurre un'inchiesta di quelli che potrebbe avere un semplice parlamentare. E siamo arrivati in questo luogo, abbiamo chiesto di entrare senza nessun indugio e di essere condotti nella stanza dove venivano eseguite le contenzioni. Capite che quel potere che la legge, la Costituzione dà a una commissione d'inchiesta è davvero importante, perché se noi avessimo mandato una lettera, chiesto di entrare, concordato un giorno, chiaramente ciò che avremmo trovato probabilmente sarebbe stato in qualche modo diverso. E abbiamo trovato una scena, mi dispiace ma la devo descrivere nella sua crudezza, di un uomo della mia età, nudo, legato a un letto di ferro che potete vedere se andate sul sito del Senato o su YouTube, insomma, perché l'abbiamo documentato, e poi verrò anche a questo, con questo letto che sembrava quasi uno strumento medievale, insomma, in parte arrugginito, di ferro, con un buco al centro per la caduta delle feci e delle urine in una specie di secchio sottostante, e nudo il letto, nudo l'uomo, legato ai quattro angoli del letto con delle garze usate come corde. e è legato da 5 giorni. Siamo arrivati di venerdì pomeriggio ed era legato dal lunedì mattina. Insomma, io davvero non volevo credere ai miei occhi. E tornando a Roma, noi abbiamo documentato queste immagini e tante altre che abbiamo visto e che probabilmente alcuni di voi hanno visto in televisione o sui siti. Io davvero non sapevo cosa fare, non avevo idea di che cosa dovessi fare, perché ero turbato, scioccato, e nel raccontarlo sono ancora adesso molto turbato. E vi confesso che a un certo punto ho deciso di rivolgermi al Presidente della Repubblica, perché volevo che le vedesse anche lui quelle immagini, volevo che capisse l'indignazione di una commissione d'inchiesta. E non mi dimenticherò mai quando, finito il breve, tanto breve non era, insomma era 32 minuti il filmato che abbiamo portato al Presidente della Repubblica, di queste immagini che sono state raccolte da un regista che si chiama Francesco Cordio, che è qua questa sera e poi ha sviluppato un film che verrà presentato nei prossimi giorni. Dicevo, queste immagini, una volta, sapete che nel momento in cui si spegne il televisore, un silenzio assoluto, perché nessuno sapeva come affrontare questa situazione. E mi ricordo che lo sguardo del presidente Napolitano, che mi interrogava quasi, ma come può accadere, egli stesso si chiedeva, ma come può accadere un orrore del genere nel nostro paese? E qua lo dico, e certamente abbiamo un magistrato che potrà correggermi nelle imperfezioni di natura giuridica, ma io l'ho spiegato così, ho detto, vede Presidente, non è qualcosa che può accadere solo a chi ha commesso un grave reato. Se io adesso mi alzo e rompo quel vaso lì, lei cosa pensa? E lui mi ha detto, penso che, insomma non ha detto proprio questo, ma l'idea che sei andato fuori di testa. Dico sì, e se i carabinieri mi arrestano e mi portano via di qua e qualcuno decide che io non l'ho fatto perché volevo distruggere il vaso dentro il Quirinale, ma l'ho fatto perché effettivamente non sono capace di intendere di volere, cosa accadrà? Mi porteranno, siccome siamo a Roma, ad Aversa, mi chiuderanno nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, un magistrato firmerà un periodo di internamento di 2 anni e dopodiché, dopo 2 anni, qualcuno mi valuterà. Quei 2 anni io li trascorrerò all'interno di una struttura dove nella stessa cella ho persone che hanno commesso reati, diciamo, bagatellari, come forse quello mio che ho rotto un vaso, ma anche reati gravissimi come quelli che abbiamo ascoltato all'inizio di questa nostra serata. E come sarò io dopo 2 anni? Pensate che appunto se mi avessero messo ad Aversa, Aversa è il luogo dove, anche qui lo dico con umiltà e anche un filo di vergogna, è il luogo dove entrando in una di queste di questi edifici dove sono, mentre noi siamo qui a parlare ancora oggi, rinchiuse queste persone, internate queste persone, lì il sopralluogo avvenne a luglio, c'era molto caldo, una struttura di cemento armato, dentro ci saranno stati 40 gradi più o meno, insomma, e io entro assieme alle altre senatrici e senatori della nostra commissione nella prima stanza dove c'è un bagno alla turca, ecco, senza nessuna possibilità di privacy, quindi ecco, sorvolo sui dettagli, ma all'interno, Adriana mi passi quella bottiglia un attimo, vi far vedere una cosa, all'interno del bagno alla turca, nel foro circolare del bagno alla turca, c'era inserita una bottiglia come questa, sapete quelle da 1,5 litri, no? Che praticamente occludeva quasi il foro circolare. Io l'ho guardata e ho detto, ma chissà, e poi sono andato nella seconda stanza e ne ho visto un'altra, di nuovo la stessa scena, la bottiglia inserita nel foro circolare. E alla prima stanza ho pensato, lo dico con vergogna, ma sono matti, alla seconda ho pensato sono matti, alla terza, alla quarta ho detto sì, saranno matti, ma tutti matti nello stesso modo, insomma non può essere. E allora ho chiesto ai matti di spiegarmi perché c'era la bottiglia nel bagno della Turca, perché fino al 2011 in persone affidate alle cure del nostro paese, un paese membro del G8, un paese civile, non era mai stato comprato un frigorifero, per cui per raffreddare l'acqua d'estate i matti la mettevano, lo andate a vedere, è documentato sul sito del Senato, dentro il foro del bagno alla Turca, perché lì c'è l'acqua della latrina che era più fredda, poi sollevavano la bottiglia per bere e la rimettevano nel foro circolare. Beh, io penso che davvero noi non possiamo tollerare situazioni di questo genere nel nostro paese. È un orrore che deve finire, che deve essere totalmente superato. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto tante discussioni, come accade in una commissione d'inchiesta, e voglio dire anche che rispetto a quello che è stato descritto prima, anch'io ho incontrato questo personaggio che tra l'altro anche in quel caso fece un grande baciamano e offrì un fiore a una delle senatrici, la senatrice Poretti, che mi accompagnava. Certamente ci sono però altre situazioni, come un ragazzo che, ripeto, mentre noi siamo qui a parlare in questa libreria, nel 1992, quindi 21 anni fa, è entrato in un bar di Catania assieme ad altri tre ragazzi, si è infilato la mano in tasca, aveva una giacca, e ha simulato di avere una pistola. È chiaro che non si deve fare, no? Perché chi vede quel gesto pensa di essere minacciato da un'arma. Ha rapinato nel 1992 3.000 lire. Le tre persone che lo hanno accompagnato in quell'azione, che evidentemente non deve essere fatta, erano incensurati, sono stati giudicati capaci di intendere e di volere, di fatto non hanno fatto neanche un giorno di prigione. Lui è stato giudicato incapace di intendere di volere, sono 21 anni che è a Barcellona, Pozzo di Gotto. Cioè, capite che c'è qualcosa che non va, insomma, e non è da poco, perché come prima il magistrato giustamente diceva, la cura, il recupero, ma come si fa a, cioè, un conto è la cura, un conto è tentare di recuperare una mente, e lo dico io che non sono specialista della materia, dopo che per un quarto di secolo o per un quinto di secolo è rimasto all'interno di quelle strutture, di quegli ambienti. Penso che sia davvero difficile. Io quindi con molta caparbietà, chi ha affiancato quel percorso l'ha visto, sono arrivato addirittura a fare un gesto eclatante rispetto al mio partito, al Partito Democratico. A dicembre del 2011, Roberto ha assistito perché sedeva nel banco vicino a me, ho avuto una giornata molto frenetica con telefonate del mio stesso segretario del partito, del presidente del consiglio che veniva a chiedere la fiducia, perché io ho detto, io capisco che sono uno solo, ma io la fiducia, era il momento del passaggio, quindi un momento importantissimo nella storia del nostro paese, dal governo guidato da Silvio Berlusconi al nuovo governo guidato da Mario Monti, io voglio alzarmi in piedi e dire che se non si prende un impegno per chiudere questi luoghi, io la fiducia non la voto, non la voto, perché io voglio appartenere a un paese civile, voglio essere orgoglioso del mio paese e non posso andare a casa la sera pensando che questi luoghi sono aperti perché di fatto a nessuno gliene importa nulla. Insomma, devo dire che in quella circostanza la risposta del Presidente del Consiglio fu immediata, rispose in aula, mi chiamò pochi giorni dopo, all'inizio del 2012, in pochissime settimane venne scritta una legge che venne votata dal Parlamento nel febbraio del 2012, Una legge che tra l'altro in un periodo di crisi economica come quello che vivevamo e continuiamo a vivere ha un finanziamento importante, 170 milioni di euro per le nuove strutture e 55 milioni di euro all'anno, qui ci sono psichiatri, psicologi, medici, sanno che insomma 55 milioni di euro all'anno per occuparsi di 1500 persone non sono una piccola somma. E allora io davvero mi chiedo per quale motivo, così come ha annunciato in qualche modo Roberto, in questi giorni il governo stia studiando, invece di come risolvere il problema con un ritardo di un anno dal momento in cui la legge è stata votata dal Parlamento, stia invece studiando come rimandare ancora una volta il problema con una proroga di uno o addirittura due anni. Bene, io credo, lo dico qui davanti a voi, ma lo dirò perché insomma anche nella crisi non solo economica ma politica che abbiamo in questo momento, un Parlamento lo abbiamo ancora, e quindi io, chiunque arriverà in aula dicendo che vuole una proroga, io ripeterò le stesse cose che ho detto qua davanti a voi e dirò che secondo me è sbagliato. Bisogna individuare una figura, magari un esperto della materia, uno psichiatra, una persona che abbia anche capacità gestionali, che abbia i poteri dal governo di poter utilizzare queste risorse economiche, di studiare capillarmente il problema e di finalmente far uscire le persone che non sono pericolose socialmente. E guardate che non sono poche, sono il 40-50%, cioè persone che non rappresentano nessun pericolo sociale, persone che 8 anni fa hanno rotto una slot machine, persone che 25 anni fa si sono vestite da donne e sono andate davanti a una scuola pubblica, persone che non rappresentano davvero nessun pericolo sociale, potrebbero essere seguite, curate, assistite dai tanti psicologi, psichiatri che se avessero le risorse per farlo certamente lo farebbero nelle loro strutture, nei loro dipartimenti di salute mentale. Poi, e qui concludo, noi ci siamo posti un problema e qui appunto sarà interessante capire anche il pensiero di chi forse la pensa diversamente da me e anche dalla conclusione a cui è giunta la commissione d'inchiesta. Il problema parte proprio è stato esemplificato in maniera magistrale dalla lettura iniziale di questo pomeriggio. Noi sappiamo che molti psichiatri, molti specialisti della materia, io cerco di sintetizzarla con le mie parole, ritengono che una persona che ha commesso un reato di sangue anche gravissimo, se curata e assistita bene al di fuori di questi luoghi, ha le stesse o più o meno le stesse possibilità statistiche di reiterare quel reato di sangue di quanto le avrei io che quel reato di sangue non ho mai commesso. È vero che questo è un aspetto che può essere discusso dal punto di vista scientifico, però noi, e vi assicuro che la Commissione, come tutto il Parlamento, c'erano persone di ideologia, perché ognuno rappresenta partiti diversi, di ideologie diverse, abbiamo discusso davvero, quello è un esempio di buona politica e bisognerebbe dirlo che ogni tanto c'è anche una buona politica, perché lì davvero tutti, qualunque fosse la provenienza partitica, hanno discusso il merito, hanno discusso il contenuto e noi siamo arrivati a una conclusione che forse sembrerà banale, ma è che coloro che non sono socialmente pericolosi devono essere immediatamente restituiti al territorio e seguiti sul territorio. Coloro che invece hanno commesso un gravissimo reato, soprattutto reati di sangue, ucciso persone o più di una persona, bene, costoro noi non ci siamo sentiti nello scrivere una legge in grado di scrivere che anch'essi dovevano andare in completa libertà. Abbiamo immaginato dei luoghi dove ci sia la possibilità di un controllo di sicurezza, non affidato alla polizia penitenziaria, però una sicurezza per se stessi e per i cittadini. Io ve lo dico davvero in maniera banale, ma con la stessa banalità e semplicità ne abbiamo discusso e lo troverete, se volete approfondirlo, nei verbali della commissione d'inchiesta sul sito del Senato. Perché io ho pensato, ma se anche è vero che non reitererà un reato e non ucciderà più nessuno, ma se per caso accade una sola volta, al di là del fatto che a me mi metteranno in croce da qualche parte e al di là del fatto gravissimo che è accaduto, ma cosa accadrà nella nostra società? Tutti penseranno che forse si è andati troppo avanti e quindi si penserà di nuovo a misure restrittive, insomma a chiudere queste persone e a buttare la chiave, quello che è stato fatto dal 1930 a oggi. Insomma, questo è il percorso che abbiamo fatto, non è un percorso conclusivo, perché altro ne deve essere fatto. Una riflessione, come il magistrato prima ha accennato, sulla condannabilità di queste persone deve essere fatta, e forse anche sugli altri modelli di leggi in altri paesi. E chiudo davvero con questo: a me ha colpito molto, abbiamo studiato i modelli di legge in altri paesi. E pensate che la Spagna, ma non la Spagna di Zapatero, è interessante anche culturalmente, la Spagna di Franco si era data una legge, che è ancora legge in quel paese, per cui se un folle commette un reato e viene giudicato incapace di intendere e di volere, verrà chiuso in uno di questi luoghi, in un ospedale psichiatrico giudiziario o l'analogo che esiste in quel paese, ma non può essere rinchiuso per un periodo più lungo del tempo massimo di pena che il magistrato gli avrebbe potuto infliggere se era capace di intendere di volere. Che cosa sottende dietro a questo ragionamento? L'idea di uno Stato che immediatamente si sente obbligata a curarla quella persona, perché sa che, a differenza dell'ergastolo bianco di questi luoghi, c'è un fine pena. E a quel fine pena quella persona dovrà essere curata. Insomma, è un percorso che è iniziato. Io però credo che ha fatto bene il Parlamento a votare una legge che indichi un termine preciso, perché, così come ha detto il presidente Napolitano, questi luoghi sono un orrore indegno di un paese appena civile. Grazie. Io ringrazio Ignazio, e nell'introdurre gli interventi di Maria Rosaria Bianchi e di Irene Galesini, che sono entrambi psichiatri, psicoterapeuti e anche con esperienze concrete in questi luoghi, diciamo. E ricordo che, ovviamente, e lo faccio per fargli la domanda, così ci proviamo un po', diciamo, a rispondere. E ovviamente la condizione, diciamo, che c'è negli OPG è anche una fotografia della condizione carceraria. Ricordo che ci sono circa 70.000, 66.000 e 650 ieri detenuti oggi nelle nostre carceri, che dovrebbero contenerne 45.000, che il 42% di essi sono detenuti in attesa di giudizio, come il famoso film che sembrava fosse di un'epoca altra, quindi con il forte rischio che, a torto o a ragione, abbiano subito, diciamo, una carcerazione che non verrà confermata dalla sentenza, se uno guarda i dati, diciamo, delle sentenze, che hanno una forte incidenza una serie di leggi, che ci sono altre leggi, ogni tanto qualche cosa che è stata fatta bene, tipo addirittura quella delle detenute madri. Stiamo parlando di 56 madri di 59 bambini che non si riesce, per scelte non politiche, perché anche lì la politica la parte sua l'ha fatta, ma perché una circolare del Ministero è arrivata a luglio scorso, dopo un anno e mezzo, e non si decide se possono essere date alle case famiglia o a degli istituti di vigilanza. Allora, questo è il contesto. Perché ho fatto questo contesto? Perché la domanda è: ma se le carceri in Italia funzionassero, ce lo auguriamo tutti, in maniera più adeguata, se le leggi fatte dal Parlamento una volta ogni tanto venissero applicate, se insomma gli ospedali psichiatrici giudiziari non fossero dei lager ma fossero dei luoghi di cura, invece avrebbe senso averli e in che forme? Cioè, come si fa l'osservazione in carcere e si decide che se uno non è dimissibile non rischia di tornare in carcere e lì diventare un problema ancora maggiore? Perché il rischio è che noi abbiamo dei piccoli che oggi dividiamo in due, i dimissibili, speriamo, siamo ancora indietro, vanno a casa con tutto il problema della salute esterna, il trattamento per ognuno, quelli non dimissibili non è che vengono curati, tornano a stare in una condizione che forse sarà migliore dal punto di vista delle strutture, ma non so quanto, che è peggiore, cioè il carcere. C'è in mezzo, diciamo, un percorso che è possibile costruire, cioè rispetto a questo, o ideologicamente, tra virgolette, anche in senso positivo, si deve dire no, comunque gli OPG vanno tolti tutti quanti, fermo restando che finché c'è l'imputabilità rimane il problema del codice penale, no? che è irrisolvibile, diciamo, ecco. Con chi iniziamo? Bene. No, vabbè, sì, no, è quello che volevo fare. Vabbè, io sono Eusebia Bianchi, ho lavorato ad Adesso, cioè un mio piccolo contributo sul libro di Adriana Panitteri che mi ha commossa tantissimo. Non solo mi ha commossa, ma io devo dire una cosa, e scusate se parlerò in una maniera che ad alcuni potrà sembrare strana, forse un po' troppo sentimentale, ma invece sto parlando per me di un grandissimo, consapevole e impossibile amore, che è quello degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui io non sapevo nulla fino a quando non ho fatto il concorso e sono arrivata ad Aversa. Una piccola battuta: stavo al supermercato, incontro una signora, mi dice Rosaria, come stai? Bene, sai, devo andare ad Aversa. Che bello, vai ad Aversa in mezzo. Dico no, veramente, io vado ad Aversa in Campania, allora mi porti le mozzarelle, va bene. E questa è una cosa che mi sono sentita ripetere tante volte, cioè io andavo a lavorare all'ospedale psichiatrico giudiziario e nessuno mi chiedeva mai niente, mi chiedevano delle mozzarelle, quindi per dire quanto è difficile parlare di questa cosa, di questo argomento. Pensate a me che un giorno ci sono andata a lavorare e nel periodo finale vivevo pure in manicomio, la mia casa stava lì, era la casetta demaniale. Quando Adriana mi ha chiamata, io stavo al parco a fare ginnastica perché mi sono maldestramente rotta una spalla quest'estate cadendo dalla Vespa. E diciamo che me la sono tirata un po', ma non per superbia, perché ogni volta che io sento parlare di OPG e mi si chiede di parlare di OPG, mi insospettisco, divento diffidente, perché ci ho sempre preso le botte da tutte le parti. È un argomento di cui è difficilissimo parlare, soprattutto per come ne posso parlare io, perché la mia è stata in OPG un'esperienza molto particolare, in un periodo molto particolare. Veda, professore, io quando ho visto il suo filmato, il 2010, ho, lo dico proprio col cuore, pianto a dirotto, ma lo sa perché? Perché io ho un altro filmato, del 1998, in cui veramente si poteva parlare di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ma perché avevamo reso tantissime persone possibile parlarne, non per una chiusura tout court. Sa, la chiusura tout court l'aveva chiesta nel 1903 lo stesso Lombroso, proprio quello che l'ha fatta aprire in qualche modo, corrompendo Maltrino Bertrami Scalia, con manco una legge c'è voluta, sa, un decreto amministrativo. Il tutto, questo battaggio è iniziato nel 1872 ed inizia proprio ad Aversa con la casa penale per invalidi nel 1876. Nel 1903 Lombroso parla di latrina che va chiusa, quindi che in qualche modo ci fosse tantissimo da discutere era una cosa che si è saputa da subito. Quando io sono andata ad Aversa, sono arrivata in un momento in cui c'era stato un ricambio generazionale ed una fortunatissima coincidenza di presenze nuove che pensavano in una maniera diversa, anche perché io ero la più piccolina allora, la più piccola, la più giovane, e tante cose non le sapevo, anzi per me è stato un periodo di grandissimo studio, perché era proprio una realtà che ignoravo, e io venivo dal lavoro nei servizi, io avevo una buona esperienza nei servizi territoriali, io non sapevo cosa fossero gli ospedali psichiatrici giudiziari, e non lo sapeva tanta gente, cioè non ero l'unica ignorante, così come c'erano tanti magistrati che ignoravano assolutamente l'esistenza degli ergastoli bianchi. Bene, quando io ho visto la locandina di questo incontro, mi sono sentita sollevata, quasi oserei dire un po' rivendicata, come a vedere ricomposte tutte quelle parti sociali che devono assolutamente interessarsi di quello che non può essere un discorso di chiusura tout court, deve essere un discorso di superamento di un modo di pensare la psichiatria, e deve essere un modo di pensare la psichiatria che sicuramente interessa, chiama in prima persona gli specialisti a rendersene responsabili, però è anche un fatto culturale rispetto alla malattia mentale. Allora, oggi c'è una persona che ha detto che vuole vivere nascosta al mondo. Ecco, gli OPG nascono per nascondere al mondo la malattia mentale nelle sue espressioni più gravi. Ed è questo che bisogna combattere, e si può fare in un solo modo, che era quello che era iniziato a comparire. Io sono arrivata a dicembre del 1996 e ci sono stata fino a dicembre del 1998. Era iniziato a comparire proprio questo in quegli anni, questo lavoro da varie parti per rendere possibile un discorso sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Io ho vissuto una cosa molto brutta, molto violenta. Veda, io non mi ricordo adesso se c'era, o forse me lo ricordo e le dirò di più. C'era la bottiglia nel bagno alla turca. Io entravo ogni mattina alla staccata, e entrarci significava che a un certo punto ogni mattina succedeva che io lasciavo il XX secolo ed entravo o nella fine del XVIII o nel XIX secolo, e facevo un grosso lavoro, non di compasso edittale, come direbbe un magistrato, ma di compasso temporale. Infatti, per quanto mi riguardava, facevo i colloqui, tenevo i gruppi di psicoterapia, valutavo in continuazione le situazioni delle più disparate che mi si ponevano davanti, e partecipavo sempre alle riunioni dell'equipe psicopedagogiche per fare firmare le relazioni che poi venivano lette nelle sedute del tribunale di sorveglianza. Ho avuto sempre molta difficoltà a parlare di questo, perché io sono stata una testimone e una protagonista di questa storia, ma non parlo per me, non mi interessa. Questa è una storia molto molto più forte, che va a toccare dei punti sociali assolutamente ineludibili a questo punto, però bisogna vedere come li si affronta, perché se noi parliamo di un discorso di mura fatiscenti, allora il discorso è molto limitato, qui bisogna proprio agire su un cambiamento culturale della visione della malattia mentale, del fare psichiatria, e bisogna mettere le varie parti sociali nelle condizioni di rispondere diversamente. deve rispondere diversamente una psichiatria del territorio, devono essere riviste le categorie giuridiche, si deve fare molta prevenzione anche culturale. Sai, io vado a parlare degli OPG nelle scuole e le assicuro che è una cosa che suscita molto molto interesse. Io non ho assolutamente nessun motivo per volere che queste istituzioni totali restino in voga, anzi è un modo di fare psichiatria che non mi interessa, non trovo valido, però trovo assolutamente disastroso, perché i risultati sono Andrea Maria. Trovo assolutamente disastroso disinteressarsi della psichiatria come branca medica, che forse è la branca medica laddove la prevenzione deve essere la parola regina. Invece purtroppo noi ancora pensiamo che la malattia mentale è come un'altra faccia del nostro stare bene, una cosa che può capitare a ognuno di noi, di svegliarsi la mattina e andare. Non c'era solo Andrea Maria, c'era anche un certo Massimiliano che cavava gli occhi. Ecco, allora, se vogliamo fare un po' di Pulp Fiction, ecco, non si deve arrivare a questo punto. Io come medico penso che se c'è una prevenzione seria, se non si ha paura di parlare di malattia mentale, se la smettiamo di pensare che è una cosa che uno la mattina si sveglia e chissà che cosa combina, allora forse gli OPG veramente, non oggi né domani, e guardi, io non penso neanche dopodomani, possono essere davvero superati. Poi che ci sia questo grosso stimolo a chiuderli, nel senso di mettere di rimettere in moto quanto si è fermato, e questa è una cosa che penso trova d'accordo tutti. Però le sta parlando una persona che ha visto buttare al secchio 2 anni di lavoro formidabili e si sono persi 15 anni. Anche noi avremmo potuto essere come la Spagna, purtroppo non è andata così, nella maniera più assoluta. Non è andata così perché purtroppo forse il punto non è tanto la chiusura degli edifici, ma seguire questa storia poi nel tempo e agire soprattutto sulla cultura. Lo sa che significa che io telefonavo ogni giorno, anche poi andando più nello specifico, ai colleghi dei servizi territoriali e dicevano sì stiamo venendo, veniamo, facciamo, non li vedeva mai nessuno, e dover pensare ci hanno ragione, perché che vengono a fare? Lo sa che significa fare parte per esempio di una seduta, andare a una seduta del tribunale di sorveglianza e dover decidere per il bene del paziente che è meglio che non esca di là? È una cosa veramente dolorosissima, è una cosa molto dolorosa. Ecco, sa come mi sono sentita oggi? Leggevo il giornale quando ho visto il filmato della commissione parlamentare, come si possono essere sentiti oggi le persone di Napoli che hanno visto andare in fumo e in fuoco e fiamme la città della scienza. Ecco, queste sono cose terribili. In Italia purtroppo arriviamo sempre a delitto commesso e si sono persi 15 anni. Allora, vediamo di ripartire da questo libro splendido, è un libro bellissimo. Vediamo di ripartire da questo libro per arrivare anche noi a qualcosa che non sia una chiusura sterile, che poi davvero potrebbe essere ben peggio di un mantenere in altro modo delle situazioni di accortezza sulla malattia mentale gravissima. Un'altra cosa volevo dirle, guardi che io non ho lavorato per buttare la chiave, se mi posso permettere una piccola cosa. Andrea Maria un giorno era seduto dietro di me in una macchina insieme ad un'altra persona e andavamo al manicomio civile a fare la prova del teatro, e non solo, poi siamo passati anche dalla pizzeria di Aversa e io ho comprato la pizza, gliel'ho data e l'ho mandata dentro, perché lui poteva uscire perché aveva avuto il permesso, faceva parte della selezione dei pazienti del teatro e gli altri no. Quindi non le sta parlando una persona che si è spaventata oppure che pensa che il fare lo psichiatra significhi buttare la chiave, le sta parlando una persona che ha lavorato per un recupero sociale che non è da intendere come una, non è da intendere come appunto un liberi tutti, ma una tutela della società e il dovuto, la dovuta attenzione, la dovuta cura a una persona che si è ammalata, ma che purtroppo non ha avuto né una diagnosi precoce e né è stato, non gli è stata data nessuna possibilità. Ecco, io penso che questo sia il vero nodo. E poi c'è l'altro problema delle carceri, perché a un certo punto io non sono né fuggita né tantomeno mi sono scoraggiata, ho capito che nel 98 finiva tutto lì, non c'era niente da fare, e allora siccome mi aveva conosciuto il presidente Margara, che all'epoca era a capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, mi chiese di venire a Roma, e lui era uno che se l'intendeva, perché lui era il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Ecco, lui mi chiese di venire a Roma a istituire un polo gestionale proprio degli OPG, di cui non si occupava assolutamente nessuno, non se ne sapeva nulla. Non le dico che cosa erano le riunioni interministeriali per parlare degli ospedali psichiatrici giudiziari, e anche del grande capitolo della salute mentale in carcere. Perché? Che cosa è successo? Che a un certo punto, venuta meno un'istituzione totale, non essendoci nessuna altra proposta valida, ce n'era un'altra pronta ad accogliere quanto si era trovata sprovvista di un'accoglienza possibile. Ecco, questi sono i temi su cui noi socialmente ci dobbiamo veramente battere, e ognuno deve continuare a fare la propria parte. Oggi sono contenta di una cosa: c'è Irene Calesini, la collega lavora nei servizi, almeno questa volta, in questa occasione, i servizi non mi hanno dato buca, quindi ascolto volentieri cosa ha da dire la collega. Poi, per tenere vivo il dibattito che stiamo facendo, Ignazio, volevi commentare qualcosa a questo? Io commenterei solo con una frase. Io capisco sentimenti, rispetto lavoro e professionalità, però io, anche a costo di prendere fischi o insulti, io la penso così. Io penso che se ci sono 55 milioni di euro, se c'è una legge dello Stato e ci sono soltanto poco più di 1000 persone che questa sera dormiranno in lenzuola impregnate di urina o di feci, per me questo è uno scandalo e deve assolutamente cessare. Io la penso così. Scusi, una sola cosa volevo dire: guardi che in quei 2 anni non era così, non era più così, si sono persi 15 anni, io questo dico, si sono persi 15 anni. Si sono persi 15 anni. Sì, però davvero non voglio fare un dibattito, ma lei una doccia ce l'ha, lei stasera dorme con lenzuola pulite, lei ha dell'acqua fredda d'estate e ha una possibilità di lavarsi la mattina. Queste persone non ce l'hanno, e queste persone non è la stessa situazione del reato gravissimo di aver bruciato una struttura dello Stato fatto da azione criminale. Queste persone sono affidate allo Stato, sono affidate a noi, sono affidate alla legge, e noi le trattiamo così. Per me non va bene, non mi convincerà mai nessuno, non va bene. Mi sembrava importante questo, perché se, diciamo, ha un valore, e io credo ce l'abbia il valore del libro di Adriana, è che apre un momento di riflessione. Penso anche che per quello che il contesto in cui siamo in questo momento in generale sia giusto approfondirli con tutto il rispetto possibile, perché c'è un dato su cui tutti sono d'accordo, è bene diciamo chiarirlo per non trovarci, cioè le condizioni delle persone che per motivi di legge vengono affidati allo Stato debbono essere le condizioni dignitose di un paese civile. Questo vale per i carcerati, ovviamente di qualunque livello, di qualunque situazione, vale per il discorso dei detenuti che hanno una legge e non gli viene applicata, vale per coloro che nonostante sia finita la pena sono affidati diciamo alle scelte sulla pericolosità sociale, che ovviamente è tutto opinabile, ma sono parecchi anni, dagli anni 80 in realtà che è possibile su questo, vale per la pressione che viene esercitata sui magistrati di sorveglianza, che qualcuno almeno lo conosce il carcere, perché i magistrati cognitivi cosiddetti spesso, e lo dicono, io parlo di convegni ai magistrati a cui ho partecipato, dopo infatti vorrei tornare e fare una domanda, non sanno nemmeno qual è, non sono mai entrati in vita loro in un carcere dove decidono, perché giustamente debbono farlo, è il loro mestiere di inviare delle persone. I magistrati di sorveglianza sanno, e però quando succede un fatto come quello dell'altro giorno a Roma, la prima cosa che dicono è: ma il magistrato di sorveglianza, e gli stessi che applaudono, non dico qui, dico in generale alla chiusura, sì, fatto dell'altro giorno, immagino sappiate, la rapina nelle parti di Piazza Vittorio dove c'erano due delle tre persone, giustamente la cronista mi ricorda come si fa il mestiere, che un po' ho dimenticato, e due delle tre persone avevano dei permessi, diciamo. Naturalmente quello, anche se è un caso tragico e di sangue, è un caso, e negli altri 364 giorni in cui i magistrati di sorveglianza ci permettono di recuperare i cittadini, nessuno sente la gratitudine per quello che viene fatto, e spesso sono le stesse persone che protestano per l'una e per l'altra cosa. Allora qui deve essere chiaro, lo dico per chi, nessuno vuole gli OPG in queste condizioni, nessuno vuole che non vengano curati. La discussione in cui invito a intervenire anche la dottoressa Irene Calesini è se come deve essere il ciclo di passaggio dalla pena che viene ancora inflitta sulla base del codice penale per questi motivi e quindi diciamo di salute mentale, e qual è la procedura da seguire, sapendo che non è immaginabile che domani mattina, come noi vorremmo, perché non è avvenuto nemmeno con le 56 detenute madri, che sarebbe facilissimo, che domani mattina noi lo volevamo dopo aver approvato la legge, ma non è accaduto, come è possibile seguire una procedura che assicuri intanto la correttezza da parte dello Stato, che non riesce nemmeno più a fornire la maglietta e il completo personale ai detenuti normali, tra virgolette, diciamo, che dovrebbe fare ogni volta. E quindi mi sembra giusto sentire, diciamo, che qual è la voce anche di chi sta sul territorio, perché se non altro questa cosa servirà per riattivare l'attenzione sulla salute mentale in genere, che riguarda tantissime persone e tantissime famiglie che sono degli scomparsi anche quando non sono negli OPG. Perfetto, insomma, allora entro subito nel vivo, visto che non ci abbiamo molto, credo, tempo, e visto che il dibattito è interessante. Allora, è chiaro che io di procedure non mi intendo. Io lavoro da moltissimi anni nei servizi psichiatrici, ho lavorato sia in SPDC, cioè servizio psichiatrico diagnosi e cura, cioè diciamo all'interno degli ospedali civili, e adesso nel centro di salute mentale sul territorio. È chiaro che come sia il passaggio non lo so. Dico che però è fondamentale un punto che diciamo l'occasione della legge Marino ci ripropone, e che è il punto che finalmente stiamo riparlando qui di cura, di malattia mentale, e ne stiamo parlando forse cercando di arrivare a capirci. Mi fai finire però? Anche di luoghi, infatti ecco la prima cosa, no, chiariamola, perché insomma chiaramente voglio dire, lavoro tanti anni in questi servizi, ho lavorato per molti anni negli SPDC, e la cosa importante è che stiamo parlando persone, cittadini da curare. Allora il grosso passo avanti della legge di riforma sanitaria, quella 833 del 78, che aveva appunto chiuso gli ospedali psichiatrici generali, rimandando i pazienti sul territorio, diciamo con, per alcuni aspetti forse in maniera troppo poco graduale e forse per alcuni aspetti in maniera ideologica, però un punto fondamentale ce l'ha avuto, che è quello di dire non sono persone strane da custodire, ma sono persone da curare. Con una certa schizofrenia, devo dire, perché mi dice che devo curare questi pazienti, tanto è vero che la legge prevede, parlo della diciamo cosiddetta 180, ma in realtà è stata inserita nella legge 833, appunto del 78, mi dice che io posso fare un trattamento sanitario obbligatorio se ce ne sono se ce n'è la necessità e se ci sono i presupposti per farlo, quindi mi obbliga a curare una persona contro il suo parere, nell'interesse in primis della persona, diciamo per la tutela della salute mentale, quindi bellissimo, no? Però poi in qualche modo mi fa lavorare in SPDC che hanno pochi posti letto, pochissimi SPDC. Nel giro di pochi giorni questi pazienti li devo dimettere, e dove vanno? Vanno in un altro scandalo, secondo me, della sanità pubblica, che è quella delle case di cura convenzionate, dove le persone vengono curate tra virgolette, ma diciamo ci sta un medico per 60 pazienti, mentre in SPDC insomma siamo in 8 nelle 24 ore per 15 pazienti. Quindi io però non vorrei andare andare troppo a scontrarci su dei punti pratici. Io credo che l'importante sia intanto capirci, e cioè questa legge intanto c'ha un merito importantissimo, che è quello di dire è uno scandalo, sono d'accordo con il professor Marino, è uno scandalo, non si possono trattare persone così, ma è uno scandalo che ci siano detenuti in carcere in condizioni che conosciamo, e è uno scandalo che ci siano bambini che stanno con le madri detenute, eppure di questo non se n'è mai parlato. Cioè questo è veramente uno scandalo, e credo che sia lo scandalo maggiore, perché se allora stiamo parlando di salute mentale e di prevenzione, io voglio dire, come possono stare questi bambini? Cioè io voglio dire, questi bambini un domani come staranno? Cioè stiamo già creando dei futuri malati mentali? Allora, torniamo un attimo. Allora io dico che forse... Do a questo proposito che sulla legge dei donatori umani, su cui c'è una legge, e questo lo ricordo per dire che le responsabilità stanno a più livelli, fatta una legge ci sono dei direttori generali che devono farle circolari, ci sono delle persone che devono eseguirle, perché le responsabilità c'erano. Ma soprattutto quei bambini lì a 3 anni, fino a 3 anni stanno senza aver commesso reati in carcere, e poi vengono strappati a Roma, è terribile, è una cosa terribile, sono d'accordo. Allora, quindi io credo che però il nodo fondamentale, allora intanto voglio dire velocissimamente, come tutti gli altri, che questo libro è importantissimo perché dà una serie di interviste, di punti di vista, di contributi, è uno stimolo fondamentale al dibattito, e in questo libro c'è come un filo rosso che è quello della cura, perché quasi tutti gli intervenuti vengono chiamati sia gli psichiatri che lavorano sul territorio, sia gli psichiatri e gli operatori che lavorano negli OPG, tutti parlano di questa necessità di cura, quindi evidentemente c'è questa attenzione, e questo è fondamentale. Io credo che bisognerebbe forse fare più incontri e parlare di più, perché quando io parlo di cura chiaramente già do per scontato che c'è una malattia. Se c'è una malattia, l'idea di malattia mi porta per forza un discorso, un'idea di sanità, cioè di fisiologia, perché in medicina sappiamo che la patologia è una appunto alterazione di una condizione di base, che è di una sanità, quindi forse dovremmo anche parlare di sanità mentale, forse dovremmo cominciare a parlare della fisiologia della mente umana, della patologia e di quello che poi porta a una malattia. Però questi sono discorsi diciamo importanti, ma vanno fatti, perché altrimenti ci ritroviamo appunto con l'organicismo imperante, no? Un discorso che dice ok, la malattia mentale che cos'è? Qualche rotella fuori posto, qualche neurotrasmettitore che si squilibra, e allora che facciamo? E allora diamo farmaci. Purtroppo nei servizi di salute mentale attualmente, per la situazione che c'è sia di carenza di organico, e questo è un fondamentale, è un punto fondamentale, sia però per la cultura che c'è e per una scarsa formazione, purtroppo noi siamo obbligati tutti i giorni a vedere tantissimi pazienti e a fare che cosa? cercando di fare la psicoterapia a chi riusciamo, strappando il tempo con i denti, però tutti gli altri che facciamo? Diamo farmaci, diamo tantissimi farmaci, e i farmaci di per sé creano, cioè il farmaco da solo crea cronicità. Questo è fondamentale. Non risolve, il farmaco aiuta, a volte è un mezzo fondamentale, assolutamente importante, ma va gestito. Quello che cura la malattia mentale non è il farmaco. Perché? Perché il cervello non si è ammalato, si è ammalata una realtà psichica, si è ammalata una mente, una realtà psichica interna, quindi si è ammalato un pensiero. Come si è ammalato? Nei primissimi rapporti umani, cioè quelli che appunto il bambino si trova a vivere da piccolissimo. Allora adesso forse mi scuso per questo forse modo di parlare troppo a cascata, me l'ero preparata una cosa un po' più organica, perché leggendo questo libro in effetti gli stimoli erano tanti. Però credo che un punto fondamentale sia questo: riparliamo di cura, di malattia mentale, di sanità mentale, e poi andiamo a vedere, qui stiamo parlando di pazienti molti, alcuni, comunque quelli che forse stanno in OPG a ragione, tra virgolette, sono quelli che hanno commesso un reato grave, che hanno, no, non a ragione perché ci devono stare, voglio dire, allora c'è una situazione in OPG, abbiamo visto moltissime persone che stanno lì per trascuratezze burocratiche, per errori, per codardia di chi dovrebbe prendere delle decisioni. Ci sono persone che ci sono andate su disposizione appunto del magistrato perché avevano commesso una lesione gravissima, un omicidio eccetera, in virtù della loro malattia. Ecco, questo è importante, perché altrimenti tutti gli omicidi andrebbero in OPG. Invece in OPG chi ci va? Ci va chi ha commesso ad esempio un reato gravissimo, ha ucciso una persona, ma che al momento di commettere il fatto non era capace di intendere e di volere. Anche qui ci sarebbe da discutere tutto il concetto dell'imputabilità, basta questo modo di dire intendere e volere, non basta. Però ecco, io questo nesso volevo fare, forse è il momento di farlo. Che cos'è che va curato nella malattia mentale? Forse va curata una distruttività interna, una violenza interna che solo poche volte, questo è vero statisticamente, non sono, diciamo, probabilmente non determinano più omicidi di altre cose o degli incidenti stradali, insomma, però è in virtù di una distruttività interna che questa violenza può essere agita. Quindi noi questo dobbiamo andare a vedere. Tra le testimonianze appunto lette, molto interessanti, appunto mi avevano colpito su, come dire, per fare un confronto delle diverse possibilità di cura che ci sono. Una, quella del mostro di Posillipo, che già è stato detto, dove lì credo veramente la possibilità di fare qualcosa di utile è scarsa, ma chiaramente ci si deve provare. Quindi io non sono d'accordo a dire no, è una persona ormai incurabile. Probabilmente è una persona incurabile, però bisogna provare a fare qualcosa perché lui stia meglio, perché lui pensi forse qualcosa di più umano, perché non faccia più quello che ha fatto, perché almeno non dica più mi piace uccidere. Io ci proverei. E poi c'è la donna che ha ucciso il suo bambino di 2 anni e mezzo, che lo racconta, devo dire, con una consapevolezza di aver fatto qualcosa di irreparabile e con una sofferenza, e quella donna secondo me è molto più curabile, cioè quella donna già è più sana, insomma è meno malata di quando ha commesso il fatto. Quindi c'è di tutto. Quindi io credo che questo, quindi per ritornare un po' alla domanda che mi faceva il moderatore, come si fa la procedura? Niente, va valutato caso per caso, ma è giusto che ogni caso sia valutato veramente, come diceva appunto Francesco Dall'Olio. Cioè, probabilmente ogni volta che si va a rivalutare la pericolosità sociale si deve rifare una perizia, e si deve fare una perizia approfondita, non da persone esterne, cioè deve essere proprio fatta da chi tiene in cura il malato. E poi un passaggio ai servizi territoriali quando non c'è la pericolosità. Abbiamo detto, la legge dice che quando non c'è una pericolosità si va, il paziente viene ridato ai servizi sociali, mentre per gli altri sono previste queste strutture che non si capisce nemmeno bene quando si faranno, come e come vengono gestite, perché insomma poi il rischio è che di nuovo siano dei piccoli manicomi. Ecco, anche perché negli OPG mi sembra di aver visto che ci sono situazioni diverse, per esempio Castiglione delle Stiviere mi sembra una situazione dove in effetti un lavoro di cura si faccia, c'è il laboratorio no? di pittura, cioè, insomma comunque cioè, ci sta anche un'idea veramente di riabilitare, perché la cura probabilmente ha bisogno di tanti momenti, ha bisogno di un momento di psicoterapia, un momento di farmaci, ha bisogno di una riabilitazione, ha bisogno di andarsi a mangiare la pizza insieme, insomma forse, però tante cose che vanno fatte. I servizi territoriali, qui arriviamo al nodo dolente, che fanno? Cioè la reazione nostra qual è stata? Allora, intanto bisogna dire che c'è un'ignoranza, è giusto, noi come psichiatri civili, tra virgolette, ci siamo sempre un po' dimenticati, non ci siamo mai occupati di questo problema, cioè di chi stava in OPG, e quindi questo è vero, è un'autocritica, questo libro è utilissimo, quindi va assolutamente letto, andrebbe messo nelle scuole di specializzazione come testo. Però i servizi pubblici soffrono di una carenza di cultura, l'ho già detto, insomma, non c'è il tempo, non ci sono le persone. L'età media dei medici di ruolo alcuni anni fa era di 50 anni, cioè sono passati già 5-6 anni da quella statistica, quindi sarebbe forse il caso di far entrare un po' più di giovani perché si possa lavorare. Vabbè, io niente. Volevo soltanto chiedere al senatore Marino se questa finalmente potrebbe essere l'occasione giusta per parlare di tutti questi temi, per riprendere il discorso sulla prevenzione, su una prevenzione che deve essere terziaria, cioè andare a evitare la cronicizzazione, uno, evitare gli atti violenti, come? Sapendo leggere alcuni segnali, appunto, avendo un rapporto, un colloquio frequente con il paziente. La prevenzione secondaria, la diagnosi precoce, cioè andare a lavorare quando nell'età della vita è più facile che si manifestino dei primi disturbi che poi porteranno a un'alterazione grave, che è la pubertà, l'adolescenza, quindi potenziare i servizi per l'adolescenza, questa è diagnosi precoce, i giovani adulti, potenziare nei servizi il personale formato, perché ci si possa occupare dei giovani, cioè io mi posso occupare poco delle madri, per esempio, che vengono a dire c'ho un sacco di ansia, non so come fare questo bambino, così, perché hanno un po' d'ansia, no? Perché devo stare devo stare lì a lavorare tanto con il personaggio che viene tutti i giorni a prendere medicine, che deve essere controllato, perché insomma è un po' strano, ma che è cronico ormai. Allora, questo, e poi c'è la prevenzione primaria, che è secondo me un mito per ogni medico, ma è un mito a cui non si può rinunciare, non so se il dottor Marino la pensa come me. E che cos'è la prevenzione primaria in psichiatria? Forse è quella che dicevo prima, cioè tutelare di più tutelare di più i bambini, ma in che modo? Lasciando perdere assolutamente i bambini e dando la possibilità ai genitori, ma soprattutto alle madri che hanno appena partorito, ma soprattutto a quelle che hanno poi, che portano avanti spesso da sole i figli, dare la possibilità alle madri e ai padri di avere un posto dove possono andare a parlare, dove possono andare a dire le cose peggiori, cioè che ne so, tutto quello che gli passa per la testa, perché è qui che si fa la prevenzione. Perché poi quel bambino starà bene, è inutile che io faccio finta di niente, aspetto che il ragazzo dia i numeri o che si strafaccia di roba, di cocaina o di altro per poi intervenire, perché a quel punto già la realtà interna è abbastanza compromessa, quindi dopo c'è tutto un discorso di cura che è molto molto più dispendioso anche dal punto di vista della sanità pubblica e dei soldi, le risorse sono poche, benissimo, vanno impegnate sulla prevenzione. E oltre che, io parlo dei servizi civili, chiaramente, quindi tutti questi soldi che sono stati trovati, benissimo, per il superamento degli OPG vanno bene, però vi rendete conto di quanto costano, appunto 50 persone, e va benissimo, bisogna farlo, ma io penso non si conclude il discorso, perché poi ci saranno sempre persone che uccideranno in virtù della loro violenza interna. Quindi vogliamo iniziare a curare questo, a prevenire questo insieme, cioè chiudiamo gli APG, lavoriamo per la migliore assistenza di queste persone, formiamo il personale nei servizi pubblici, sosteniamo sto personale perché non ce la fa più, c'è una demotivazione, c'è una difficoltà ogni giorno ad andare avanti, perché non c'è nessun riscontro positivo. Siamo soltanto chiamati in causa quando succede qualcosa di grave. Quindi credo che sia una grande occasione questa. Grazie. Certo. Stavo per fare due domande, quindi una domanda. Io desidero fare una domanda da cittadina, da mamma. Io ho una figlia da cittadina, insomma. Io sono una mamma, sono anche un'insegnante, io lavoro con gli psichiatri, perché sapete benissimo che la teatroterapia può curare molto bene. Io sono stata colpita, le vostre cose sono interessantissime, siete persone di altissimo livello, bellissimo sentirvi, ma mi ha colpito il professor Marino, raccontandovi una cosa che io conoscevo, quella di Catania, di quei ragazzi, con quel ragazzo che con una pistola giocattolo aveva fatto quella... Vabbè, ha col dito addirittura, vabbè, peggio ancora, è lì dentro da 21 anni. Allora io chiedo, da cittadina italiana, perché poi io in televisione devo vedere una mamma o un papà disperati ai quali hanno ammazzato una figlia e subito dopo vedono liberato l'assassino, che non è neanche un malato di mente, ma è normalissimo. Allora io chiedo che il vero scandalo sia anche questo. Chi ha figli può capire, io ho una figlia che se me la toccano veramente ammazzo qualcuno. Allora domando, questo è uno scandalo, vedere l'assassino di tua figlia libero per la città. Grazie. Io prima, sì, poi, no, non stiamo chiudendo, ancora dobbiamo fare le domande, poi parla Adriana, ci racconta il prossimo libro, ci abbiamo tutta la serata. Si spaventano tutti. Limitatamente all'ossigeno che abbiamo qua dentro a disposizione, ad estinzione naturale. No, non so. Vuole fare la domanda subito? Se vuole fare la domanda. La dica, io la ripeto. Ah, sì. Anzi, sono due o tre domande collegate e anche uno stupore. La domanda è l'autrice. La pazzia dimenticata, che cosa intende lei per pazzia dimenticata? La seconda riguarda il bellissimo intervento di Ignazio Marino, che secondo me non è stato capito fino in fondo, perché ha lanciato abbastanza calore rispetto a quello che lui ha detto. C'è un progetto importantissimo che lui sta mandando avanti. Un'altra cosa che voglio dire è che io ho visto il video di cui si è, del caso di cui si è parlato, sono un artista, ero a questo convegno invitata da un amico, quindi anche casualmente, e a un convegno invece era Ignazio Marino, vedo questo video di questa storia, e anche questo luogo. Io ero stata a visitare i campi di concentramento, era uguale. Allora, ci indigniamo per i campi di concentramento, perché non indignarci per questi luoghi? Fossero una, 10, 100, 1000 persone, ma non ho finito, mi scusi signora. Se io avessi una figlia o un figlio, non ne ho, e avesse dei disturbi psichici, e avessi una struttura a cui affidare mio figlio o mia figlia, perché sono luoghi, perché luogo di rispetto, della dignità, della cura, bla, e tante cose che sono state anche suggerite qui, io non avrei timore né paura di quel luogo, perché saprei prima di tutto che mio figlio o mia figlia sono rispettati come persone, nella dignità e nella loro spiritualità e nella loro intelligenza. Il luogo visto in questo video è una cosa che io non sono, mi scusatemi, sono potuto continuare. Io nei lager ci sono stata a visitarli, questo, mi sono alzata e sono uscita. I miei occhi non ce la facevano. Ecco perché chiedevo di parlare dei luoghi. È vero, lei dottoressa ha ragione, 2 anni di esperienza sono sempre molto importanti in tutte le cose, però questi 2 anni di esperienza che si può mettere al servizio di chiunque, diciamo, non, mi scusi se lo dico, ma non ci ha parlato di un progetto, cioè quello che ho sentito nell'intervento di Ignazio Marino è stato un progetto per il futuro. Come guardare al futuro per il rispetto di chiunque, chiunque figlio, amica, conoscente, debba trovarsi in un errore giudiziario ed un caso. Grazie. Allora, io recupero con due domande che faccio prima di arrivare Arianna al nostro magistrato, con quale mi devo scusare di più perché è quello di cui non ho sentito un intervento, e a Ignazio, diciamo, anche per fare il punto. Al magistrato chiedo con domande, se possibile, senza mettere in difficoltà, ma la legge dice che il 31 marzo dovrebbe essere state completate una serie di procedure. Noi sappiamo che il 7 febbraio, per stare ai fatti, diciamo, il 7 febbraio la conferenza delle regioni con lo Stato ha stabilito di spendere quei soldi, dicendo, e quei soldi sono in relazione alle persone, quindi sappiamo finalmente che il Lazio ha 150 persone che debbono essere prese in cura, che la Lombardia ne ha tot, che la Basilicata ne ha tot, e questo è già un fatto non da poco, perché prima non c'erano nemmeno i numeri. La domanda che faccio al magistrato è questo: qualcuno ha sollevato anche in un comitato Stop OPG, in alcune persone tra i garanti, c'è cioè la questione, cioè se dal 31 marzo inizia una fase di illegalità rispetto a questa legge, e cioè se, per esempio, lo dico a titolo esemplificativo, i parenti di qualcuno che si è internato, l'internato stesso attraverso il suo legale, nel caso di sua dimissibilità che non avviene, non possa porre la questione, diciamo anche semplicemente a titolo come dire esemplificativo, della illegalità di una situazione, essendoci una legge che è operante rispetto a questo. Quindi la domanda è se questo lei pensa che sia possibile, se questo, diciamo, sarebbe polemicamente d'aiuto per questa idea, diciamo, insomma, di quantomeno porre fine alla condizione in cui sono oggi questi luoghi. Ma a parte che c'è un posto qua davanti, scusate, la mozione dove chi sta in piedi si vuole sedere, magari la particolarità è che c'è un posto qua davanti. Ecco, appunto, siccome c'è un posto, credo che magari sono stati. Dicevo, questo discorso di una possibile illegalità, ma a parte che se appunto abbiamo visto che questi OPG sostanzialmente sono assimilabili in diversi casi almeno a dei lager, io direi che la situazione di illegalità già sussisteva, perché scusate la formazione tipicamente inquisitoria, ma quella persona trovata legata da 5 giorni nuda a letto, io vorrei sapere da pubblico ministero, ma chi ce l'ha legata? Perché scusate adesso, no? Benissimo l'accusa nei confronti della istituzione violenta, inadeguata che è l'OPG, ma chi c'è dentro agli OPG? Cioè, io francamente non vorrei ritrovarmi quella stessa persona che non so chi sia, che ha legato quel poveraccio al letto di ferro, poi nella microstruttura territoriale. Quindi il concetto di legalità mi sembra che sia stato già abbastanza strapazzato da queste istituzioni. Per rispondere alla sua domanda, è chiaro che se domani mattina, il primo di aprile, diciamo il 2, va, il primo è sospetto, il 2 di aprile si presenta in procura un parente di un soggetto dimissibile e presenta una denuncia, nella migliore delle ipotesi, per violenza privata, se non per sequestro di persona, nei confronti del direttore dell'OPG di Avezza, che non ha dimesso il suo parente, è chiaro che sarà aperto un fascicolo, questo sarà indagato, lo interrogheremo e poi si andrà a vedere se non lo ha dimesso perché non l'ho voluto dimettere, perché non c'erano le strutture e quant'altro. È chiaro che questo sarà fisicamente possibile. Certo, bisognerebbe domandarsi che senso ha avuto chiuderli ma poi non dare la concreta possibilità di dimettere ed avviare qualcuno da qualche parte. Quindi capisco l'effetto paradosso o lo stimolo, però insomma è possibile che dobbiamo sempre stimolare la gente a randellate, cioè, no? Cioè con la minaccia del carcere, sì, beh, se no io avrei smesso di lavorare. La ringrazio. Purtroppo la ringrazio, ma purtroppo la domanda nasceva dal fatto che, come lei sa bene, esisteva già anche un programma, cioè con Ignazio ed altri abbiamo fatto, lui ha guidato questa battaglia, perché in realtà esisteva già, perché l'ultimo atto, va detto, insomma, spero nessuno si offenda, posso dire che l'ultimo atto del governo Prodi era, diciamo, tra le altre non poche cose, diciamo, che forse fece il DPCM del 2008, nel quale c'era il cronoprogramma anche che riguardava gli OPG, e quindi in teoria queste denunce, diciamo, invece che il 2 aprile di quest'anno, potevano partire già da prima rispetto a questo fatto. Quindi la domanda è ancora più amplificata, non solo chi ha legato dal 2008 fino al 2012 quando è stata fatta la legge, chi non l'ha visto, chi non lo ha denunciato, perché c'era già un cronoprogramma, è uno dei tre allegati dell'applicazione della riforma della sanità in carcere, e quindi volete nulla di inedito, nulla di più inedito dell'edito, diciamo. Ignazio, che si può fare oltre che, diciamo, ovviamente sperare, riavviare un dibattito come è stato fatto, che mi sembra una cosa sacrosanta, insomma? Io provo a sintetizzare, insomma, la mia risposta. Innanzitutto però un'osservazione la volevo fare rispetto a quel video, a quel filmato che è stato tante volte evocato da tanti che hanno preso la parola questa sera, in ultima la signora. Io vorrei, sembrerà così curioso che dica questo, ma nel video non si percepiscono gli odori, e io vi assicuro che entrare in quei luoghi ci si porta a casa degli odori terribili, che davvero danno la sensazione di violenza che viene esercitata su queste persone. Allora io credo che i ragionamenti sulla salute mentale, sulla prevenzione, sono importantissimi. Io credo che noi dovremmo avere le risorse, dovremmo dedicarle per avere degli psicologi che affiancano i nostri medici di famiglia, per fare tanto lavoro sul territorio. Però davvero io non posso accettare l'idea che si affidi allo Stato una persona, perché la si considera un malato, la si chiude in uno di questi luoghi e si va quotidianamente a ledere la sua dignità di essere umano. Questo non può essere accettato, qualunque sia, nella mia visione del mondo, qualunque sia il reato, piccolo o grande, che abbia commesso, noi non possiamo, se siamo in un paese civile, ledere la sua dignità di essere umano. E questo è quello che noi stiamo facendo, perché scusate, se io fossi una mentalità pragmatica, perché di formazione sono un chirurgo, ma credo che se ci sono 55 milioni di euro spendibili da un anno, dal febbraio del 2012, se ce ne sono altri 180 milioni spendibili, io non vi ho annoiato con i dettagli, ma alla fine di ogni anno nel nostro paese, perché siamo in una crisi economica, il ministro dell'economia, che giustamente fa il suo lavoro, riporta in cassa i soldi non spesi. Roberto sa, è un dettaglio, ma che io personalmente mi sono impegnato in Parlamento per questo specifico tema non accadesse, cioè quei soldi sono rimasti a disposizione. E allora qui, ragazzi, non è che possiamo girarci troppo intorno. Se c'è la legge, se ci sono i soldi e nessuno fa niente, ma ci sarà o non ci sarà una responsabilità, Dio santo? Per me c'è, e di tutti coloro che hanno responsabilità nelle regioni, responsabilità nello Stato, responsabilità in tutte le amministrazioni, che di fatto non hanno fatto niente. E alla domanda di Roberto, che giustamente il magistrato risponde, se c'è una legge accadrà questo, c'è la soluzione che il governo sta studiando prima del 31 marzo. Io non leggo il futuro, non sono un indovino, perché sennò farei un altro mestiere. Vedrete che ci sarà un decreto legge del governo che dirà: non preoccupatevi, non applicate la legge, la rimandiamo di un altro anno, e così non ci sarà neanche la possibilità per chi è chiuso in quei luoghi di rivolgersi al magistrato per dire che è chiuso contro la legge. Io credo, insomma, che davvero dobbiamo indignarci tutti, non si deve arrivare al fatto che il percorso di legge indicato da Roberto del 2008, una regione importante come la regione Sicilia, cioè non l'aveva mai ratificato, è una legge dello Stato, e la Sicilia fino al 20 dicembre 2012 non l'aveva neanche recepita, una legge dello Stato in 5 anni. E quando è che l'ha recepita? Prima ha detto che forse bisogna in alcuni casi usare il bastone, non so che cos'è che l'espressione che ha detto, quando facendo un atto, e qui abbiamo un magistrato, forse ce ne sono altri, inedito nella storia della nostra Repubblica, io mi sono preso la responsabilità di porre quella struttura dello Stato sotto sequestro, di porci i sigilli. Allora la Sicilia dopo 5 anni si è svegliata e il giorno dopo ha recepito la legge. Ma vi sembra una cosa normale? Io penso che non sia normale, e penso davvero che invece di un'altra deroga la soluzione c'è, se si vuole cercare la soluzione. Il governo ne ha i poteri, perché lo abbiamo scritto nella legge prevedendo che non accadesse nulla, ha i poteri di nominare un commissario, una persona che si assuma la responsabilità. Ma parliamo di 1000 persone, parliamo delle risorse che ci sono per curarle, ma perché almeno coloro che non sono pericolosi socialmente non vengono date agli psichiatri, agli psicologi, alle strutture sul territorio le risorse economiche per curarli, per seguirli, e queste persone vengono restituite ai loro territori? Questo non viene fatto perché c'è un solo motivo: non c'è la volontà di farlo, e non c'è la volontà, e io mi sono fatto questa convinzione, perché questi sono gli ultimi degli ultimi, non hanno nessun modo per protestare, non hanno nessun modo di far sentire la loro voce, e allora la società fa un po' come quella canzone di Andrea, io non mi ricordo le parole esatte, no? Ma più o meno diceva che lo Stato si arrabbia, si indigna e poi getta la spugna con gran dignità e scrive un decreto di proroga. Sì, grazie. Niente. Posso fare una domanda? Se non c'è nessuno del pubblico prima. Volevo fare una domanda al professor Marino proprio su questo. Le strutture, a parte che qualche paziente comincia a essere dimesso dei non pericolosi e nei servizi pubblici stanno arrivando e stiamo appunto cercando di fare magari inserimenti in comunità terapeutiche, eccetera, perché spesso queste persone tornano ma non c'è nessuno che li vuole a casa, per esempio, no? Parliamo anche, per esempio, nei piccoli centri c'è anche un grosso problema culturale di diffidenza, di paura, eccetera, e quindi anche su questo ci sarebbe un grosso lavoro da fare, è un lavoro che impegna risorse e tempo. La mia domanda era sulle strutture previste dalla legge che invece dovrebbero accogliere le persone ancora socialmente pericolose. Le strutture appunto che dovrebbero essere gestite, se ho capito bene, direttamente dalle ASL e in particolare dai dipartimenti di salute mentale, quindi, se capisco bene, con un personale ad hoc, eccetera. Io dico, ma chi supporta questi dipartimenti di salute mentale? Perché noi non riusciamo nemmeno ad aprire un centro diurno. Ci sono dipartimenti di salute mentale che non riescono a tenere, a gestire nemmeno una comunità terapeutica per 15 persone, comunità terapeutica per pazienti psichiatrici, tra virgolette, civili. Come facciamo? Cioè, e poi c'è il rischio, appunto, ripeto, che queste strutture diventino di nuovo dei luoghi, ma se nel luogo io non ci metto appunto la cura, il pensiero, la possibilità di fare qualcosa, rischiano di diventare forse ancora magari dei manicomi, tra virgolette. Che cosa si pensa di fare? Cioè, praticamente, perché la mia paura qual è? È che, soprattutto per esempio in una regione come il Lazio, nella ignavia completa di molti dipartimenti di salute mentale, succeda che queste strutture vengano trovate in quello che già c'è, cioè che alcune cliniche private si riconvertano in questo. Ecco, allora mi chiedo, è di nuovo il pubblico che delega la sua funzione? Cioè, come al solito facciamo grandi proclami, poi nella pratica come si pensa di farlo veramente, di farlo gestire al pubblico una situazione dove ci sia appunto una cura e una riabilitazione di queste persone? Allora, come sappiamo, do la parola a Ignazio per dare un'idea, non chiedendogli però diciamo di fare anche quello che non fa, non so se concorrerà ad altro, gira pure, ma insomma diciamo non è presidente della regione Lazio, e nella regione Lazio questo, no, al di là della melassa diciamo, no? Poi forse bisognerà cominciare a chiedere queste cose, perché quest'estate ancora, questo lo dico per testimonianza diretta, da luoghi privati di cura, quei luoghi dove ci stanno 50-60 persone, siccome agosto c'è più difficoltà, ad agosto o si dimettevano quelli che potevano andare in famiglia o finivano negli OPG, entravano passando anche questa estate, perché complice alcune volte il fatto che il magistrato, quello abituale, non c'era, c'era quello in sostituzione, a richiesta di un atto di violenza si entra, e ragazzi di 21, 22, 25 anni sono entrati, perché va spiegato anche quello, che prima di quella situazione degli OPG c'è l'arrivo in carcere normale, l'ufficio matricola dove tu diventi un carcerato e dove tu dai le tue impronte e dove tu entri in una loggia diversa, e la notte da soli. Allora qui la domanda che faceva Ignazio, che in parte ho fatto anch'io prima, è quel medico che ha firmato sapendo che finiva in un OPG quella persona invece di essere curata, perché doveva liberare la sua villa, non so che cosa, convenzionata con la Regione Lazio, perché la coscienza non può essere solamente quella della politica. E quel direttore generale, diciamo, che ha permesso della ASL che accadesse questo quest'estate, e tutte queste figure ai vari livelli, ce l'hanno una responsabilità o no? Un sindaco che non dà, un sindaco, un presidente regione, un responsabile ASL che non programma questa assistenza che diceva prima, a chi di voi fa quel lavoro lì, ha la stessa responsabilità di chi li mette nell'OPG in quelle condizioni o no? Quando sa che finisce nell'OPG, quando chiama i carabinieri per revocare le condizioni del TSO, del trattamento sanitario obbligatorio, dicendo che c'è una condizione nuova di violenza. Io penso che questa è una responsabilità che richiama molte persone. Sarebbe bello e sarebbe facile dire solo un legislatore o uno magistrato ha sbagliato, e invece ci sono vari livelli e tutti quelli tornano a casa la sera e dovrebbero guardarsi in uno specchio. Scusa. Ma io mi permetto di commentare, stavo riflettendo su queste ultime parole che ho ascoltato e pensavo un po' a questo percorso di questi 5 anni della commissione d'inchiesta, dove evidentemente un'inchiesta così, insomma, se ci tiene incollati per tanto tempo alle sedie in una stanza così affollata, è chiaro che il tema lo troviamo tutti molto, molto importante, molto, molto forte. E io credo, la mia riflessione è questa, io credo che la politica ha dato veramente in questi ultimi anni nel nostro paese il peggio di sé, insomma, ha dato degli esempi così negativi di comportamenti, di irresponsabilità, di illegalità, di immoralità, che insomma sono davanti agli occhi di tutti. Però credo, non so, questa è la mia riflessione, che ci sia davvero una necessità di un recupero di una cultura pubblica, di un senso di comunità nel nostro paese, perché senza voler puntare il dito contro nessuno, e ho messo la politica come prima punto, area di immoralità nel nostro paese, ma senza voler puntare il dito contro nessuno, noi nella nostra commissione abbiamo visto con molta chiarezza che cosa accade e che cosa è accaduto anche in questi ultimi 12 mesi, nonostante le risorse economiche disponibili. È accaduto che, ad esempio, è vero, alcuni sono usciti, alcune delle persone non pericolose socialmente, ma lei non ha idea di con quale fatica. Io ho dovuto discutere con la mia commissione per assumere una persona part-time che non è compito di una commissione d'inchiesta, che tenesse un database di tutte queste 1500 persone e 3 volte alla settimana telefonasse in ognuno dei manicomi criminali, perché io li chiamo così, del nostro paese, dicendo: ma Ignazio Marino, che è inammissibile, perché è ancora lì? Perché? E perché era ancora lì? Perché il direttore ha scritto, il magistrato ha dato il permesso che potesse uscire, il direttore ha scritto all'azienda sanitaria locale perché lo riaccogliesse, l'azienda sanitaria locale, che capisce che è un impegno importante, difficile, che impegna molte risorse umane curare una persona che per 20 anni è stata in quei luoghi, rispondeva, li abbiamo visti con i nostri occhi, dicendo: beh, adesso noi non abbiamo lo spazio, ce l'avremo tra 18 mesi. E insomma, capite che il magistrato cosa faceva? Convalidava la misura di sicurezza e quella persona veniva, sequestrata ancora per altri 18 mesi e chissà cosa accadrà alla fine dei 18 mesi. I magistrati, e lo dico davvero con grande rispetto, io ho un profondo rispetto per la magistratura, però quando io non credo che un PM sia meno scaltro di me, anzi penso che sia molto più scaltro, e allora se io entro in uno di questi ospedali psichiatrici giudiziari e vedo un foglietto incollato sulla cartella clinica dove c'è scritto che Ignazio Marino è ancora socialmente pericoloso per 1, 2, 3 motivi ed è firmato dal medico, e poi vedo un foglio che è fatto proprio come taglia e incolla, uguale, la stessa stampata del computer dove è cambiata solo la data e rincollata 6 mesi dopo, non è che non capisco che lì non c'è stato un esame accurato ed è stato solo rincollato un foglio, che significa sequestrare per altri 6 mesi quella persona. Il magistrato non se ne accorge che è così, il sospetto gli verrà come mi è venuto a me, ma siccome sono situazioni difficili, siccome sono situazioni che richiedono un grande impegno, siccome richiedono un grande sforzo da parte di tutti, tutti fanno finta di nulla. E allora forse se tutti noi un po', lo ripeto, ci indignassimo, se tutti noi pensassimo che non facendo finta di nulla forse possiamo davvero migliorarla la nostra società, e questo si allarga a tutti i discorsi che giustamente ognuno di voi ha fatto questa sera, le carceri, ma la violenza sulle donne. Io non so, l'altro giorno vi racconto un aneddoto e poi chiudo qua, un aneddoto per me dolorosissimo. Sono entrato in un ospedale romano, in un grande ospedale romano, e a un certo punto ho visto una donna, una scena che purtroppo nella mia vita, anche se mi sono occupato di trapianti, ho fatto tanti anni il pronto soccorso, è una scena che ho visto e che ho riconosciuto nello sguardo di quella signora, una donna seduta, abbandonata quasi su una sedia fuori dall'TAC, e ho detto: ma cosa sta facendo questa signora? E mi hanno detto, sussurrandomelo quasi, è probabilmente vittima di una violenza domestica. E questa volta l'hanno colpita più duramente e deve fare l'TAC all'addome per vedere se ci sono lesioni. E ho detto: e se non ci sono lesioni cosa fa? E la rimandiamo a casa. Ma capite che noi abbiamo perso il senso della nostra società. Abbiamo perso il senso di come investire i soldi della nostra sanità pubblica, perché quelle persone, di fatto, quelle infermiere o quei medici che mi hanno risposto così, probabilmente loro non avevano nessun altro potere, anche perché in questa nostra città c'è solo un centro per la violenza delle donne, in un ospedale lo si stava per chiudere. Nella città di Torino, io sono stato un mese fa a visitare il centro per la violenza sulle donne e sui minori, e mi sono vergognato, perché io non avrei mai immaginato, vi dico un numero, che alle Molinette di Torino ogni anno, lì c'è un centro antiviolenza, ogni anno non lo so, ma l'anno scorso, nel 2012, sono arrivate 673 persone, di cui 174 minori. Cioè, e quel centro lo vogliono chiudere perché non ci sono, perché per la spending review non ci sono le risorse economiche. Allora forse io credo che una riflessione più generale su come utilizzare le nostre risorse economiche, su che cosa è giusto fare, se dobbiamo, in una fase in cui non si capisce quale sarà il nostro governo futuro, pensare se dobbiamo investire in queste aree strategiche e tagliare magari, non lo so, nella difesa, negli armamenti, in altri settori che probabilmente non sono così importanti in questo momento. Io credo che tutte le cose che abbiamo ascoltato questa sera sono riflessioni importanti, però forse va fatta una riflessione più ampia che ci porti a comprendere che dobbiamo fare un passo culturale che riguarda tutti noi nel nostro senso davvero di comunità. Poi dopo andiamo a Diana. No, io volevo veramente precisare questo. Io forse sono una delle persone più contente per la Commissione Marino e per questa data, che spero che in ogni caso venga mantenuta almeno come, o quantomeno rimandata, però ecco, rimandata di poco, ma il problema è proprio quello di una cultura generale che deve cambiare. Altrimenti, ecco, io volevo solo portare la testimonianza di un qualcosa che si era mosso, chiaramente non era stato assolutamente risolutivo, era la prova che veramente se ci si muove tutti si possono fare tante cose, però se non cambia una cultura, e in particolare in psichiatria questo è ancora più incidente, mi permetta, che non è in chirurgia, senza nulla negare, sa, io da ragazzina leggevo i libri di Andrea Maiocchi, Bistori e Forbici, quindi pensi un po' a lei. Ecco, allora, io penso che il punto fondamentale sia quello di una cultura, sia quello di una cultura che deve cambiare e in cui ci dobbiamo ritrovare tutti. Poi i luoghi sono importanti, però se non cambia il pensiero, quei luoghi tornano indietro ed è molto doloroso assistere a questo. Grazie, io direi che a questo punto chiederei a Adriana di concludere. Sì. No, diciamo, tra l'altro sono alcuni libri anche abbastanza che hanno inciso su cose che appunto toccano il cuore, anche la pancia, diciamo. Sì, guarda, io dirò poche cose perché insomma siamo, credo, un po' tutti stanchi. Allora, intanto sono veramente sinceramente contenta, insomma, di come è andato questo pomeriggio, e sta arrivando anche Silvia Costa mi pare giù in fondo, vabbè, comunque sono molto contenta per la presenza anche di tanti psichiatri, e qui ci tengo a sottolinearlo, di tanti psichiatri che hanno comunque una formazione diversa, no, tra loro. Vedo il dottor Gallotta giù in fondo del servizio di prevenzione, diagnosi e cura del San Giovanni, vedo Attenasio, vedo Martino Riggio, insomma li ringrazio tutti quanti, ovviamente oltre alle psichiatre che sono sedute qui accanto a me, perché vedete il vero grande problema di questo libro, questo piccolo libro reportage, è stato quello di muoversi un po', insomma, con grande accortezza in una materia molto scivolosa, toccando anche delle corde molto e dei nervi molto scoperti, perché insomma, diciamo la verità, insomma, la psichiatria è ancora molto divisa in questo paese, e anche alcune sottolineature a cui abbiamo assistito questa sera, no, negli interventi, in fin dei conti dipendono molto da questo, no? Diciamo la verità. Tant'è che è sembrato che non ci fosse entusiasmo, no, nell'accogliere l'intervento del senatore Marino. E invece no. Ma facciamo un po' di sintesi, per quello che io ho capito facendo questo percorso e senza avere idee precostituite, perché non avevo idee precostituite. Allora, intanto, un primo punto. Io credo che il senatore Marino, ma qui l'hanno veramente riconosciuto tutti, abbia fatto un lavoro enorme, immenso, di cui gli diamo veramente grande merito, di grande dignità civile e di grande, come dire, conoscenza anche delle tematiche di carattere sociale. Quindi questo è un lavoro che credo rimarrà una pietra miliare, no? Nessuno potrà dire il senatore Marino ha fatto un lavoro brutto, ha fatto un lavoro incompleto. No, ha fatto un lavoro di grande denuncia, e di cui veramente gli dobbiamo dare un grande merito, e tutti credo che glielo daranno. Qual è il problema? Perché qui è il nodo, secondo me. Probabilmente qui ci stiamo raccontando che per una serie di carenze, di ritardi, di burocrazia, di insomma tutto quello che poi riguarda un po' questo paese, le strutture alternative, no? Le piccole strutture, le residenze alternative nelle quali dovrebbero andare i malati tra virgolette pericolosi, non sono ancora pronte, e questo è un dato di fatto purtroppo che non riguarda, non ha colpa il senatore Marino, non ha colpa, cioè non sono ancora pronte, questo è un dato di fatto. E qui forse bisognerà appunto trovare l'escamotage che sarà di natura giuridica, per cui ci sarà forse una proroga, ci sarà forse un commissario, forse questo insomma non ce lo dobbiamo nemmeno chiedere noi, però di fatto le strutture alternative non sono pronte, quindi insomma noi al 31 marzo 2013 quei pazienti ritenuti appunto pericolosi non potranno uscire, perché il rischio è che possano andare eventualmente in comunità alternative i cui requisiti non sono sempre verificati o verificabili, e quindi lì dobbiamo fare attenzione. Anzi, io direi che la commissione a questo punto ha un compito in più, cioè ha il compito morale, no? Perché insomma non si è visto il lavoro che è stato fatto. Il compito morale è quello di vigilare ovviamente su quello che può accadere, no? Dal 31 marzo 2013, anche perché i magistrati di sorveglianza teoricamente e praticamente, guardo lei anche se so che non è un magistrato di sorveglianza, però insomma teoricamente e praticamente cosa fanno al 31 marzo 2013 se c'è una persona che ha commesso un reato grave e che è comunque ritenuta incapace di intendere e di volere? Non la possono mandare in un ospedale psichiatrico giudiziario, quindi dove la mandano? Punto interrogativo. La mandano probabilmente in carcere? Altro punto interrogativo. La mandano in una comunità? Ma se le comunità non sono pronte, in quale comunità la mandano? Quindi c'è un grande, è un po' un ingorgo istituzionale, insomma, è un po' quello a cui stiamo assistendo in questo preciso momento storico politico, con no, la mancanza di un governo, il Presidente della Repubblica che sta per andarsene, chi lo nomina, insomma, è compagnia bella. Questo quindi sta succedendo un po', cioè, sì, non c'è il Papa, vabbè, il 12 poi c'è il conclave, comunque insomma purtroppo, no, chiederemo ai cardinali di scegliere, no, cioè di fatto c'è un problema oggettivo che però non dipende ovviamente dalla commissione, da nessuno eccetera. Rispondo un po' a ruota libera, ci mancherebbe, insomma, dopo che il lavoro è stato fatto, rispondo un po' a ruota libera, insomma sono pensieri un po' sparsi vista la temperatura ormai 150 gradi qui dentro, alla signora che mi chiedeva perché il titolo è La pazzia dimenticata. Beh, insomma è evidente, cioè in tutto questo, in tutti questi anni la pazzia ha finito per essere dimenticata, perché abbiamo constatato che all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari, nonostante, perché questo io devo dirlo, cioè nonostante la buona volontà di un buon numero di persone che lavorano all'interno di queste strutture e che insomma giustamente insomma si sentono anche colpite nel momento in cui dicono beh, noi siamo i direttori dei lager, no? Perché poi magari ci sono anche persone all'interno che fanno il loro lavoro con tanta buona volontà, lo fanno anche oltre i loro compiti istituzionali. Io lì racconto in maniera banale di un assistente sociale che dice: sai, io queste persone insomma le ritengo un po' dei figli, vabbè, c'è un po' di assistenzialismo, però poi va bene pure quello, serve pure quello insomma nella vita, tant'è che gli porto anche la lasagna, no? Fa ridere questa cosa, porto la lasagna, però per dire che comunque ci sono anche persone all'interno di queste strutture che fanno del loro meglio. Ma come lo hanno potuto fare queste persone? E qui ritorna il titolo, La pazzia dimenticata. L'hanno potuto fare con i pochi mezzi che hanno avuto a disposizione, perché non ci prendiamo in giro, cioè in questo paese è stato molto comodo, no, prendere questi ospedali psichiatrici giudiziari, chiudere appunto la porta, serrare i lucchetti, dare due soldi, due fondi, mettere 5 psichiatri per 150 pazienti. Ma quale lavoro si può fare con tutta la buona volontà con 5 psichiatri e 150 pazienti? E i direttori amministrativi con i quali io ho dialogato, perché sono dialogato con diverse figure, cioè quelle istituzionali, gli psichiatri, gli assistenti sociali, i pazienti, i cosiddetti secondini, ma questi disgraziati di direttori amministrativi che cosa potevano fare? Questo ovviamente, però io devo stare attentissima quando uso il linguaggio che uso, perché si toccano dei nervi, no? Si toccano delle corde. Allora se tu dici no, sono rimasto colpito dal video della commissione inchiesa, mi ha fatto malissimo, e giustamente la psichiatra dice no, però io lì ci sono stata ad Aversa, anzi sono stata la staccata, no? Che è considerato il reparto peggiore, che poi giustamente il senatore Marino ha fatto chiudere, però dice io ci ho messo tutta la buona volontà, ci credevo, cioè ho fatto del mio meglio. Allora se uno dice così, sembra che vuole difendere gli ospedali psichiatrici giudiziari. Allora smettiamolo un po', sinceramente. Io credo che questo... No, no, signora, però mi faccia precisare, io non ho parlato fino ad ora, insomma, di solito gli autori qualcosa magari la dicono, magari sbagliano, però insomma fatemela dire. Insomma, 5 minuti di sfogo, fatemi fare. Allora, io dico questo, insomma, signori, cioè veramente, io ho fatto un piccolo lavoro, non avevo la pretesa, tra l'altro un lavoro che ho fatto in 2 mesi, probabilmente con più tempo l'avrei fatto meglio, mi scuso per tutti quelli che non ho potuto sentire, ascoltare, insomma, anche quel piccolo sprazzo che io ho dedicato ai servizi territoriali, no? Erano, come dire, delle puntatine, no? Sulle difficoltà dei servizi territoriali che ora si ritroveranno anche ad accogliere i pazienti psichiatrici che hanno comunque commesso dei reati. Allora io dico che bisogna veramente fare attenzione. Cogliamo questa occasione, non voglio essere ecumenica perché insomma c'è il concilio per fare questa roba, però vorrei cogliere questa occasione per fare, cioè smetterla di scivolare sul linguaggio. Allora, io ritengo questo, poi ognuno faccia come gli pare. Commissione inchiesta ha fatto un grande lavoro, traiamone, come dire, i frutti, portiamola avanti. Gli psichiatri, forse sarebbe stato importante, però questo è un passo indietro, formare intanto gli psichiatri, quindi formare i psichiatri, a quel punto creare le strutture e a quel punto quindi destinare a queste strutture quei pazienti i quali purtroppo per una serie di situazioni pregresse che abbiamo visto sono ormai in situazioni di quasi cronicità o di cronicità, perché effettivamente ormai il mostro di Posillipo per noi è diventato un esempio, però effettivamente è difficile fare qualcosa se non dare solo farmaci a chi si trova in una condizione psichica così grave. L'uso dei farmaci all'interno di queste strutture è diventato purtroppo una necessità terribile, però una necessità, e questo bisognerebbe parlare, no, con i medici che ti dicono: ma noi siamo 5, cosa facciamo? Gli facciamo la psicoterapia in 5? Alcuni poi non sono nemmeno capaci di fare la psicoterapia perché non ci credono. Questo è il tema di fondo. Io lo dico al senatore Marino: non ci credono. Cioè, io ho visto psichiatri ai quali io ho chiesto, e non voglio fare nomi, però insomma si capisce un po' da libro, ho chiesto: scusate, ma voi la fareste una psicoterapia? Sì, vabbè, ma la psicoterapia, cioè, come dire, ma a che serve la psicoterapia? Allora qui c'è un grande limite, secondo me, anche degli psichiatri che lavorano all'interno di queste strutture, che probabilmente dovrebbero essere formati nuovamente, pure noi giornalisti, politici, tutti dovremmo essere ogni tanto formati, insomma andare a scuola, quindi dovrebbero andare a scuola, ci vogliono i soldi e ritorna, no, il circolo vizioso. Vorrei dire tante cose, insomma mi si accavallano, e vorrei dire anche qualcosa su chi non dovrebbe trovarsi proprio all'interno di queste strutture. Ma è chiaro che chi ha subito l'ingiustizia di, per un reato insulso, no, di trovarsi all'interno di queste strutture, deve andare via al più presto. Ma io sfido chiunque a dire che non debbano chiudere queste strutture, non debbano uscire al più presto. Eppure, tutto questo non è accaduto. Di chi è la colpa? Dei direttori degli ospedali psichiatrici giudiziari che vogliono i lager, oppure di tutto un insieme, cioè i servizi territoriali che non hanno i soldi, non hanno i fondi, non li accolgono, perché poi insomma hanno commesso magari reati lievi, però o perché si sono scompensati lì dentro, no? Stando dentro gli ospedali psichiatrici giudiziari, o perché comunque qualche problemino ce l'avevano comunque, sono persone magari sole e quindi purtroppo restano all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari. Allora, la colpa di chi è? Dei direttori? La colpa è dei servizi territoriali? La colpa è dei magistrati? Ma cioè, io diciamo che ognuno si prenda la propria parte di colpa, e così smettiamola a questo punto di demonizzare una figura o un'altra, o dire insomma gli ospedali psichiatrici sono brutti o sono belli. Che sono brutti, sono brutti tanto. Io chiudo dicendo che la sensazione più forte che ho provato nel dialogare con queste persone è stata proprio questa, cioè quando entri là dentro, no? E hai fatto poi una fatica immensa per entrarci, perché appunto non hai i poteri della commissione d'inchiesta, no? Quindi non è che bussi e dici fatemi entrare, perché insomma non ti fanno entrare, no? Quindi finalmente riesci a entrare lì dentro, finalmente riesci a parlare con gli operatori, con gli psichiatri, con i malati, quelli con i quali è possibile parlare, perché alcuni insomma è veramente difficile dialogare, e a un certo punto non vedi l'ora di andartene. perché ti prende un freddo dentro, cioè una paura, un senso di ingiustizia, anche un timore appunto che non possa esserci una speranza di cura, cioè ti prende tutto questo e non vedi l'ora di andartene. Quindi ovvio, sono brutti, sono bruttissimi, però insomma io direi che dobbiamo lavorare, renderci conto che non è che, per me non è nemmeno tanto importante, senatore, io lo dico a un amico con cui ho condiviso le battaglie sul testamento biologico insieme a Peppino Englaro e a Mina Welby, secondo me non è nemmeno tanto importante che chiudano al 31 marzo se non sono pronte le strutture alternative, cioè per me è importante che ci sia una vigilanza e che chiudano, non vengano abbandonati, per carità, perché sennò ritroveremmo il problema della pazzia dimenticata, ma che poi veramente chiudano, che ci siano strutture, che queste persone vengano accolte e curate, che è la cosa che ci interessa di più. Una postilla, cioè l'informazione dovrebbe fare la sua parte. L'altro giorno, quando a Perugia, quell'impiegato, insomma, quell'uomo, piccolo imprenditore, non si è capito bene, è entrato dentro la regione, ha sparato alle due donne, alle due impiegate. Io ho fatto una fatica pazzesca perché facevamo i titoli del telegiornale e insomma, vabbè, il direttore, insomma, il vice direttore puntavano su questa cosa del non ha avuto il finanziamento, quindi ha preso, è entrato in regione e ha sparato alle due impiegate. Ma no, cioè non ha avuto il finanziamento 4 anni fa. Quello purtroppo era una persona che aveva dei problemi psichici gravi. Tanto è vero che comunque in quel caso aveva avuto due trattamenti sanitari obbligatori, fare un trattamento, due trattamenti, e di fatto però comunque gli era stato dato un porto d'armi, era stata poi di fatto abbandonata dal sistema. Allora non voglio dire, per carità, non me lo fate dire, non mi dite che io l'ho detto, perché insomma il linguaggio è sempre pericoloso, però qualcuno potrebbe dire, ma se fosse stato curato, o se fosse stato magari in una comunità, o se fosse stato... Se si fosse fatto qualcosa, voglio dire, invece di far finta di niente. Quando la dottoressa Bianchi parlava della violenza e parlava della violenza psichica, io credo che forse non abbiamo fatto troppa attenzione. Cioè lei diceva il malato mentale ha una violenza, talvolta ha una violenza psichica che talvolta si traduce in una violenza verso se stesso e verso gli altri, talvolta, cioè non è che stiamo dicendo che i malati mentali sono tutti pericolosi, assolutamente no, l'importante è che però non si faccia finta che stiano bene quando stanno male, questo è punto. Io vi ringrazio. Grazie soprattutto per la pazienza, grazie al senatore Marino che ha subito questi miei libri già diverse volte, e vi auguro una buona serata. Mina Verdi, chiocciola Gmail, molto semplice.